È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. S'approcio in me, perché c'è da ridì, non vedo che problema c'è, mettiamola così. S'approcio in me, e che ce posso fa, sono libero di scegliere, ce l'ho sta facoltà. Oppure vogliamo davvero ritornare ai tempi in cui la gente come me prendeva il mare, spediti in esilio su quell'isola lontana, nel nome della virilità italiana. Allora, cari ascoltatori della Zanzara, io francamente non volevo tornare a sprombattuto su questa vicenda, su questa tematica, su questo, su questa questione dei matrimoni omosessuali. Non ci volevo tornare, cari ascoltatori della Zanzara. Però oggi il segretario dell'UDC, ex vicepresidente della Camera, signor Pier Ferdinando Casini, che si autoproclama moderato, si autodefinisce moderato, ha tirato fuori queste frasi. Più avanti probabilmente le avremo anche in audio. Per il momento ci arriva con la conferma dell'ANSA questa versione, poi peraltro confermata dallo stesso Casini. I matrimoni tra gay sono una idea profondamente incivile, una violenza della natura e sulla natura. Cioè dire, essere, cioè il matrimonio tra gay è una cosa contro natura. Poi, le adozioni è un'idea della società che abbrutisce. Ora, ripeto, ognuno la può pensare come vuole sui matrimoni gay e sulle adozioni. Però usare le parole civiltà, inciviltà, abbrutimento della società. E ci dovrebbe essere un'alleanza tra il Partito Democratico e l'UDC? Cari ascoltatori, elettori di sinistra, Lorenzo, che dici? Ma è un barbaro, è semplicemente un barbaro. E chi è in imbarazzo dovrebbe essere il PD, Bersani per primo. È un barbaro, dice cose barbare, fuori dalla storia, fuori dalla realtà. Barbaro, e dovrebbe essere un cattolico, cioè dovrebbe essere quello che ha il senso del rispetto della persona umana. Sono questi i cattolici, non credo. Telefonate, alzatevi, fatemi sentire. Intanto qualcuno dice che queste parole rappresentano un'apertura, quelle di Casini. Perché una cosa, no, qualcuno dice c'è una versione che dice no, guardate bene, poi ha detto che bisogna dare i diritti alle coppie conviventi, ma quello lo aveva già detto, ci mancherebbe altro, quello lo do per scontato, mettermi al muro, cioè, è una cosa come dire, qualcuno dice no, è un'apertura, ma quale apertura, ma di che parliamo? Intanto altra follia. La Federazione Europea del Calcio punisce Antonio Cassano, 15.000 euro, che per Cassano probabilmente è argent de poche, è poca cosa, per le frasi sugli omosessuali pronunciate durante gli europei. Cosa sbagliatissima, ha sbagliato la Federazione Internazionale Europea a punire Cassano. Ora uno non può dire delle frasi anche scherzose sugli omosessuali, su cui abbiamo parlato a lungo, e deve essere multato? Ma siamo pazzi? Attento. No, però attento. Ma va, dai, su. No, attento, qui è l'Europa. Cioè non è la Federazione, attento, non è la Federazione. Ma che c'entra italiana l'Europa? Gioco. Beh, la Federazione Europea di Calcio, allora che c'entra? Bravo. Che te c'entra? Te lo spiego. Ma che c'entra? In 30 secondi lo dico, poi ne parleremo anche dalle 7:15. Poi immagino, ma siccome in Europa esiste, come dire, gli omosessuali discriminati vengono, gli viene riconosciuto il diritto a non esserlo, è chiaro che la Federazione Gioco Calcio Europea si adegua alle normative europee. Ma non dire stupide, stai dicendo, ma a me non mi interessa cosa si adegua, non si adegua. Fatto sta che punire Cassano con 15.000 euro, che ripeto, per lui sono argent de poche, per una frase pronunciata sugli omosessuali, e lo dico io che sono a favore dei matrimoni gay, è una barbarie. Ma è la Federazione Europea. Ma me ne frego che la Federazione. È un reato, ma potrebbe, capisci, ma no? Non è vero, lo ma quale reato, no? In Europa? Non dire stupidaggini, su. Non, io sono a favore dei matrimoni gay. No, che palle, non hai capito di che cosa si tratta, Cassano. Problemi loro, sono froci, problemi loro. Ma la sbrigo così, se no mi attaccano da tutte le parti. Sono froci, se la vedessero loro. Mi auguro che non ci sono veramente in nazionale. Però se l'ha detto Cecchi Paone, che c'è stato? C'è stato? Io non lo so, io nemmeno, non lo so. Dimmelo te che mi hai fatto la domanda. E vabbè, per queste frasi 15.000 euro di multa. Pensate un po'. Fate, anche poco. Fate voi. Per te anche poco, va bene, ma è legittimo, ma pensare. È la federazione europea, comunque. Oddio, con sta storia, chi se ne frega? Se è la federazione europea o la federazione italiana. L'Europa su questo, vabbè, è più seria. Ci stai spiegando perché? A me non mi interessa il perché. È giusto o no punirlo con 15.000 euro? Assolutamente sì. Benissimo, secondo poco. Me assolutamente no. Troppo poco. No, ma va bene, questo va benissimo, per carità, però non è che mi devi venire a spiegare l'Europa invece che l'Italia, chi se ne frega, non è questo il punto. Perché l'Europa sono civili. Ho capito, ingroia, no. Hai utilizzato anche tu le parole civiltà e inciviltà, non dire stupidaggini. Non dire, non c'entrano niente la parola civile o incivile. Ingroia, non c'entra niente, non è che chi non punisce, non è che chi non punisce, non è che chi non punisce Cassano è incivile, non dire stupidaggini, ingroia, ingroia. Sono più apprezzato a quelle latitudini, potrebbe andare in Guatemala, sentite. Che cosa andrebbe a ci fare? Ci sto pensando seriamente e sono, ammetto, a provare un po' di stanchezza, diciamo, del tiro al bersaglio quotidiano contro il dottor Ingroia. Quella latitudine forse il dottor Ingroia è un po' più apprezzato della sua professionalità, della sua capacità. Potrebbe andare in Guatemala, in Guatemala. Allora, la Bindi, protagonista, come sapete, sul tema degli omosessuali, di uno scontro alla festa democratica del Partito Democratico a Roma. Abbiamo altri audio, ma ve li proporremo più avanti. Però se n'è uscita con questa cosa qui. Il ritorno di Berlusconi è come se tornasse Mussolini, sentite. Io personalmente sono dispiaciuta, preoccupata. Mi domando che paese è questo che dopo 20 anni di disastri si ritrova di fronte. Sarebbe come se fosse tornato Mussolini, eh? Cioè, a un certo punto dice, beh, ritorna Berlusconi. E sto paese lì se lo guarda, dice, adesso che succede? Ma persino quegli argomenti che citava lei, sono ammosciati persino quelli. Non ci abbiamo più neanche il Berlusconi delle escort o della lotta alle toghe, cioè non c'è più nemmeno quello. Beh, a suo modo è anche divertente, a parte Mussolini, che è una stupidaggine. Laminetti, ieri alla presentazione, come sapete, di uno sponsor, dice: non parlo di politica. Sentite, divertente. Non l'ha mai fatto. Ma hai detto che non parli di politica, giusto? No. Ma perché saresti in grado? Tutto è cominciato da questa interpretazione di 5-6 versi. Allora, pochi istanti fa, Oscar Giannino, nella registrazione dell'ultima parola di Paragone questa sera alle 11:30, ha detto: non voglio fare politica, non mi candidi. Allora che cos'è tutto sto movimento? Oscar, ripensaci. Non fare come Grillo, mando avanti gli altri, io non mi candido. Non voglio fare politica, non mi candido. Ma che vuol dire? Ma se non te candidi tu, chi si deve candidare a questo punto? Hai fatto tutto nella vita, fai pure questo, no? Questa era la risata sarcastica di Giannino. Bossi ieri sera. Maroni pensa di avere potere, sentite. Non vedo che problema c'è, mettiamola così. Soprocio e me, perché sei meglio te. Se ne sei tanto convinto, almeno spiegami perché. Non rubo, non sporco, non uccido nessuno. Arriva, arriva. Bossi, errore di Maroni, pensa di avere potere. Arriva. Non c'è, a dopo. 800 24 00 24, è con noi Paola Goisis, Lega Nord. Buonasera. Buonasera. Come sta? Eccola. Bene, grazie. Si ricorda di Parenzo, sì? Certo. Ma se lo ricorda bene? Ma se lo ricorda bene o male, onorevole Goisis? Bene. Bene, eh? È un bravo. Ho una buona memoria. È un bravo ragazzo oppure un discolo? Beh, un po' discolo, per quello che la riguarda. No, per quello che mi riguarda, lui è un po' discolo, è un po' discolo. Che mi riguarda. Senta, onorevole Goisis. Però il suo bel maritino alle volte dice delle cose, lei è il suo maritino. Prego? No, parla del suo compagno, eccetera, va bene, ma è sempre Parenzo. Ma quello è un altro discorso. Senta, le volevo chiedere una cosa, noi facciamo sempre questa domanda. Meraviglioso, del giorno in cui cadono le borse, l'onorevole Goisis, bellissimo. Ma quali ma che c'entra le borse? Crolla tutto. Mamma mia, ha letto solamente i titoli delle cose. Sì, adesso. È per questo che abbiamo detto che è discolo, no? Sì, per carità. Senta, onorevole Goisis, le chiedo una cosa, noi facciamo sempre una domanda. Il capo della Lega chi è? Bossi o Maroni? Beh, Beh, allora, parlo io, quindi a titolo personale, poi ognuno è libero delle proprie opinioni. Allora, per me, allora, il capo è Bossi, il segretario è Maroni. E dunque, no, ma questo è importante, questo, il segretario è Maroni perché è stato eletto al congresso, giusto? Esatto. Però il capo resta Bossi, diciamo la verità. Il capo resta Bossi perché nel termine capo c'è implicito qualcosa di più del semplice segretario. Certo. Il capo è quello che è, ha avuto tutta una storia, ha fatto la storia della Lega, ha un carisma, ha tutto certo. Una serie di elementi per i quali è riconosciuto come il capo. Cioè, quello Maroni che sempre il numero due rimarrà. Nessuno si sognerebbe di chiamare Maroni capo. Ah, certo, certo. Cioè, voglio dire, il capo chi è? È Bossi. È Bossi. Dunque, quando parla Bossi vale più di quello che dice rispetto a Maroni. Vale più lui rispetto a Maroni. Vale, e adesso non si fa una questione di chi vale di più. Sono due cose diverse. Sono due. Sì, ma per lei, per l'onorevole Goisis, vale più la parola di Bossi o di Maroni? Allora, se Bossi parla come capo, è chiaro, la parola di capo, del capo per me è importante. Evidentemente, se Maroni parla in qualità di segretario, io ascolto il segretario. No, questo è chiaro. Certo. Non ho capito niente. No, non ha capito niente, apra un po' le meningi se non ha capito niente. No, le meningi non si aprono, comunque, volevo dire. Guarda che ci sento anche bene, ha capito, quindi così. Allora, brava, brava, picchi duro, picchi duro. Insomma. Senti, onorevole Goisis, però lei non faccia... Non faccia troppo la diplomatica. No, no, ma io non sono. E so che lei non lo è. Io non sono per niente diplomatico. So che lei non lo è. Lo dica chiaro. Per me, quando parla Bossi, è legge. Bossi è legge perché Bossi è il capo, è il capo carismatico, quello che ha fatto la Lega, quello che investe in se stesso i concetti e principi della Lega Nord. Benissimo. E tutto questo avvalorato da 30 anni di storia, da 30 anni di azione, da 30 anni di lavoro, che poi che gli è stato riconosciuto non solo dai militanti, non solo dagli elettori, ma diciamo da tutto il mondo politico. Cioè, non è questa una considerazione che faccio solo io. Però, siccome c'è un contrasto evidente, alcuni, no? Ma che hanno, che è stata riconosciuta in Parlamento, tutti lo salutano e lo riveriscono come il capo. Certo. Capo tutti, tutti lei dice gli altri, no? Gli altri soprattutto. Sì, quelli degli altri partiti, voglio dire, anche l'altro giorno, insomma, ha il riconoscimento che gli è dovuto. Questo che, di cui io parlo. Cioè, ha un carisma che Maroni se lo sogna, questa è la realtà. Che Maroni non ha ancora il segretario da neanche un mese. Beh, però è stato ministro, insomma, ha una lunga storia nella Lega, evidentemente. Ma ci può arrivare, secondo lei, al carisma di Bossi? Ci può arrivare Maroni oppure? Io credo di no, perlomeno nei brevi tempi no. Anche perché nella questione del capo, del cosiddetto capo, cioè di Bossi, c'è tutta una serie anche di fatti, di avvenimenti, di lotte, di denunce, di cose che ha sopportato. Cioè c'è tutto un insieme, c'è tutta una vita dentro, non c'è solo il fatto di essere il segretario della Lega. Senta, quando Bossi dice i cani piccoli abbaiano ma non mordono, in sostanza, ma non fanno male paura. Beh, non fanno paura, si rivolge evidentemente a il cane piccolo e Maroni, diciamo la verità. Questo io non lo so. Onorevole Goisis, chi è? Lo dobbiamo chiedere a Bossi. Bisogna chiederlo a Bossi. In ogni caso, sappiamo tutto, cioè, sappiamo anche che Bossi è molto bravo anche nel cercare le metafore, no? Nell'esprimerle. Se la ricorda questa voce, onorevole Goisis, le viene in mente qualcosa? Le viene in mente qualcosa quando ascolta questa voce? Gliela faccio sentire bene. Io, a me non piacciono proprio Goisis. La conosco bene. Mi stacco su un punto di qualche metro. Probabilmente mi giro anche. Sono assolutamente contro quello che è diverso, nel senso, io so che purtroppo esistono, ci sono malati, c'è un sacco di cose, io li considero diversi. Come si può definire il suo compagno? Il mio compagno mettiamola così, un collega di lavoro, un collega di partito, mettiamola come vogliamo, lo conosco bene. Di cui ho riconosciuto bene la voce. Ha riconosciuto dolce bene. Amore sensibile, certo. Molto sensibile. Ha sentito cosa pensa degli omosessuali, il signor Santino Bozzi? Sì, ognuno responsabile delle proprie idee. Non c'è dubbio. Per carità, per carità. Ma lei la pensa allo stesso modo, per curiosità? Io ho le mie idee, non la penso proprio così. Comunque, ripeto, Lui è libero di dire quello che pensa in modo colorito, più o meno colorito. Cioè, per lei non sono diversi, non sono. Cioè, non è che sputa quando vede due per strada. Ascolti, lei mi aveva fatto un'altra domanda prima. Lo so che però lei è sensibile. Ma vuole trascinare su questa cosa di cui non avevamo concordato, Concordato, sa. Beh, no, voi non potete dirmi che parliamo di politica, parliamo di voti. Perché questa che è? Non è un argomento politico questo qua. Beh, insomma, in questo momento non è certo. Ma comunque, insomma, tanto lei... ascolta. Sì. Cioè, io ritengo che... Ha sbagliato suo marito o no? Ha sbagliato il suo compagno a dire quelle cose o no? Ha sbagliato, sono affari suoi. Io dico quello che penso, cioè che la società è fatta di uomini e donne. Sì. La natura ha creato uomini e donne per la procreazione. Dunque, gli omosessuali sono contro natura. Ascolta, come ho detto anche in altre occasioni, se tutti noi, quelli che esistiamo adesso, morissimo... e rimanessero soltanto omosessuali, morirebbe anche tutta l'umanità. Sì. C'è poco da ridere, questa è la realtà. Ma sono contro natura, dunque sono contro natura? A me non interessa dire se sono contro natura, se sono nella natura, se sono da una parte, se sono dall'altra. Io faccio solo questa considerazione. Sì. Allora, se tutti i cittadini del mondo morissero e rimanessero solo gli omosessuali, stai zitto! Finirebbe l'umanità, perché non ci sarebbe più ricambio generazionale. E quindi le conclusioni tiratele voi. No, le tiri lei le conclusioni. No, no, io non ho bisogno di tirarle, perché io la mia vita, le mie idee, i miei pensieri, io già li ho realizzati. Dunque, matrimonio gay non se ne parla. Matrimonio gay, se lo vogliono fare, lo facciano. Ci sono dei paesi in cui glielo fanno fare, vadano là a farlo. No, dopo, se l'Italia lo vuol fare, si andrà a elezioni, si vedrà cosa ne emerge. Ma lei è d'accordo, sì o no? No, evidentemente. Io non sarei proprio d'accordo. Appunto. Certo che dopo, sa, secondo ognuno, come ripeto, responsabile, vogliono sposarsi, che si sposino. Se l'Italia vuole mandare avanti questa legge, lo faccia pure, se riesce ad avere i voti. Ecco, ma nella Padania, per esempio, lei troverebbe posto il matrimonio gay nella Padania? Ma non solo nella Padania, ma diciamo pure in tutta l'Italia, dove, cioè, non stiamo di Padania o Italia o Francia. Voi aspirate alla Padania? Diciamo nella società. Nella società. Non dovrebbe, cioè, non, un matrimonio tra gay, ecco, mi sembra non tanto proponibile. Se poi lo vogliono fare, lo facciano. Se ne vadano dall'Italia, dice lei. Non se ne vadano. Vadano a farlo dove è possibile farlo. Se in Italia non è possibile, finora lo facciano altro. Senta, ma nella Lega da noi lo facciano pure. Certo, no, ma io non volevo soffermarmi su questo argomento, però mi viene da chiedere, nella Lega ci sono omosessuali secondo lei? Io non ne conosco. Ma è possibile che ci siano, sì? Potranno esserci, solo che chiesto a me e io non li conosco. Ma è compatibile essere omosessuali e essere nella Lega? Compatibile si può essere, io penso che gli omosessuali possano siano di ogni partito, penso. Sì, ma come dire, con i principi della Lega è compatibile? Principi della Lega, che se sono quelli della famiglia, se sono quelli diciamo dell'identità culturale, storica, eccetera, bisognerebbe fare forse ancora dei passi. Dei passi, dunque, se uno dice sono gay, mi voglio iscrivere, che succede? Andrà a vedere nelle proprie sezioni se nella propria sezione viene accettato o meno. Fosse per lei, lo accetterebbe o no? Io dico anche una cosa: perché una persona deve venire da me a dirmi sono gay? Cioè, mica ma magari l'ha già detto, magari l'ha detto. Ma non è mica detto che lo debba dire, perché deve dirlo? Io mica glielo chiedo nel modulo di iscrizione, c'è mica scritto. No, certo, E allora, perché mi deve venire a dire io sono gay? No, ma lei su questo ha ragione, però... A me proprio queste cose qua, guarda, non mi interessano assolutamente. Non le interessa. E neanche mi interessa che voi cerchiate di farmi cadere nel cosiddetto tranello. Paola Gogli, se non mi chiami in un altro modo. Non si chiama Santino Bozza, dice lei. O qualunque altro modo. Senta una cosa, per carità. Ma esiste un cerchio magico intorno a Maroni? Un altro cerchio magico? Io non lo so se esiste un cerchio magico, anche perché poi non so neanche quale fosse l'altro cerchio magico. Quello c'era. Anche quello io non l'ho conosciuto. Hanno dato anche a me questa etichetta, che poi il cerchio magico neanche sapevo cosa fosse, quindi voglio dire, se mi dicono chi erano quelli del cerchio magico, poi potrò dire sì, c'era o non c'era. Ma esiste adesso un gruppo di fedelissimi che fa il bello e il cattivo tempo? Un gruppo di fedelissimi c'è senz'altro, così come c'era prima ancora del congresso. D'altra parte li vedevamo sempre in televisione o sulla stampa, che parlavano liberamente, mentre a noi era vietato parlare, allora era permesso andare sulle televisioni, eccetera. Quindi voglio dire, se parliamo dei fedelissimi che stanno attorno, se quello è il cerchio magico, allora c'è il cerchio magico. Ma se invece vogliamo dire i fedelissimi, certo che ci sono. Senta, ma lei una volta disse che con i soldi della Lega Bossi e la sua famiglia possono fare quello che vogliono, perché sono i soldi dei militanti. Io ho detto che siccome noi versiamo dei contributi volontari ogni mese, anche abbastanza consistenti, io ho detto con i soldi che io verso alla Lega, a me fa piacere che quei soldi vengano usati da Bossi. E dalla famiglia, lei ha detto. E dalla famiglia, certo. Ma scusi, ma lei Paola Goisis versa un tot di soldi, o un militante qualsiasi, a lei fa piacere che vengano utilizzati per far vivere o per far vivere meglio la famiglia Bossi, scusi? Ma qua non si tratta di far vivere meglio la famiglia Bossi. Beh, ma anche... ma che vivere meglio, non sarà mica, non sarà... A parte poi ci sarebbero mille discorsi da fare. Vabbè. In ogni caso, se anche i soldi che io ho versato sono serviti per pagare una bolletta o una cos'era lì, le fatture mediche, quelle cose lì, dov'è il problema? Io proprio non mi sento... Beh, magari qualche militante si può incazzare, signora Goisis. Ascolta, i militanti quanti soldi versano? Vogliamo sentire quanti soldi versano? Beh, allora non è che versino tanti soldi. E allora sono soldi dello Stato? Allora sono soldi dello Stato? No, perché i soldi dei militanti, il militante versa 30 euro della tessera, quindi 30 euro in un anno, il sostenitore ne versa 15. Sì. Allora, non vengono a parlarmi dei soldi dei militanti, poi magari ci saranno anche quelli se non sono soldi dei militanti... Che fanno donazioni, che fanno... cose di questo tipo. Gli altri soldi, quelli cioè dati del finanziamento pubblico al partito, sono soldi del partito. No, sono soldi dello Stato. E lì sono soldi del partito. No. E sarà, certo, sono soldi del partito, sarà il partito che andrà poi ad analizzare come vengono usati questi soldi e fare in modo anche poi di fare i propri passi, se ritiene Senta una cosa. È così. Senta, perché, ma lei consiglia... Ascolti, anche i soldi allora che vengono dati a tutti gli impiegati, quelli della sanità, quelli della scuola, anche quelli... Ma quello è diverso, che c'entra? Ma è molto diverso. È molto diverso. Senta, onorevole Goisis, voglio chiederle una cosa. Lei considera alla fine di tutta questa vicenda, considera Maroni un traditore? Lei una volta disse lo ha pugnalato Bossi alle spalle. Allora, io sono abituata sempre a parlare, a dire le cose così come le penso, l'ho detto, l'ho ripetuto, eccetera. Allora, se lasciamo stare Bossi e Maroni, facciamo così. Se due persone che si considerano fratelli, eccoci qui, cari ascoltatori, riprende la Zanzara su Radio 24 con David Parenzo. Strano che questa volta non ci siano lamentele. Sento male, non sento. No, si sente abbastanza bene. Devo dire la verità, si sente bene. Non dovrebbe essere un'eccezione. Dovrebbe essere... Pronto? Che cosa c'è? Che è successo? Non sento. Flavio da Verona. Caro amico, il problema è che non dovrebbe essere un'eccezione, dovrebbe essere la normalità. Ma la Goisis è molto simpatica. Peccato che sia un deputato, ma è molto simpatica. Adesso torna in onda, se non è già in onda. Se fossimo a Euro Disney sarebbe meraviglioso. Ma adesso non insultare le persone quando non sono presenti, su. No, ma io glielo dico, perché secondo me diglielo anche in faccia. Diglielo anche in faccia, che lei dovrebbe andare al circo, così hai detto, a Disney World, a Disneyland, a Euro Disney. Invece che al Parlamento dovrebbe andare a Euro Disney. Diglielo quando è in collegamento, diglielo, fra poco. Intanto sentiamoci i titoli del TG3. Euro Disney. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Impennata dello spread, è tornato sopra i 500 punti, tonfo in borsa, peggio di Milano solo Madrid, dall'Europa 100 miliardi per le banche spagnole. 100.000 a Madrid contro le misure di austerità del governo, cortei anche in altre città, scontri tra manifestanti e polizie, decine di arresti e feriti. L'allarme di Monti, il contagio è in atto e non da oggi, tra le cause degli attacchi speculativi anche l'incertezza politica, non c'è bisogno di altre manovre. Il governo dà il via al riordino delle province, delle 107 attuali ne restano 43, le 10 città più grandi diventano aree metropolitane. Napolitano sulle telefonate al Colle, non sono mai uscito dal mio ruolo e non ho nulla da nascondere, contro di me basse speculazioni, nuovo attacco di Di Pietro. Casini, incivili matrimoni gay e sulle alleanze, sia al dialogo con Bersani, no Di Pietro e Vendola, Franceschini, non detti legge in casa nostra. Un giovane irrompe in un cinema di Denver dove proiettavano la prima di Batman e fa una strage. 12 morti e 50 feriti. Il dolore di Obama. S'approcio e me, perché c'è da ridì? Non vedo che problema c'è, mettiamola così. S'approcio e me, e che ci posso fare? Formigoni, ieri sera in onda, giornalisti deficienti. Sentite. I cittadini lombardi maggioritariamente sono sempre stati al mio fianco e quindi la maggioranza dei cittadini lombardi che mi ha votato per 4 volte consecutive mi diceva vai avanti, non credere a questi deficienti che deformano la verità. I deficienti che deformano la verità. Speriamo di prendere qualche soldino dal Fatto. Con tutto il mio rispetto per la vostra professione. Comunque, giusto per potersi presentare, ho già presentato oggi querela contro il Fatto anche per l'articolo di stamattina, che è completamente falso, destituito di ogni fondamento e diffamatorio. Gli ho chiesto un po' di danni, sono convinto che prima o poi qualche soldino. Ovvero quei indietro. 9 milioni non esistono. Perché gli crea problemi sul lavoro, sai come. Poi lo scontro, insomma, la discussione anche piuttosto accesa tra Mentana e Formigoni, che sembra a un certo punto Mentana commissariare quasi in onda, diciamo la verità. No. Come no, ma non fare. Tu non puoi parlare su questo perché sei in conflitto di interesse. Mentana no. Formigoni, stai zitto. Assolutamente. Sì, vabbè. Lei stasera se l'è presa con parecchie persone, in particolare anche col nostro direttore Enrico Mentana che non gliela fa passare liscia. Buonasera Formigoni. Ecco, buonasera a lei. Io non ho visto la sua faccia, ho colto. Cos'è le ultime parole. Ecco, lei non ha visto la mia faccia, non ha visto la mia faccia e ha colto le mie parole. Colpo che non scena. Sono quelle che lei ha detto. A me dove lei va in vacanza non me ne frega assolutamente niente. Oh, ma se lo ci va spesso insieme? Se, però, se facciamo insieme, pago io, guardi, pago io per evitare guai. Poi la diatriba sulla stampa, lo scontro sulla stampa, sentiamo. Non si può attaccare la stampa. Lei ha un'avvertenza aperta con la procura di Milano. Che è il Fatto, non la stampa. No, guardi, scusi, il fatto fa parte della stampa. Sono due organi che hanno scritto falsità, mi perdoni Mentana. Io attacco Repubblica e il Fatto che hanno scritto falsità. L'ho dimostrato. Poi ancora, sentite. Quello che però le voglio dire con molta tranquillità è che il Fatto Quotidiano, e come faranno anche altri giornali domattina, ha pubblicato un documento che potrà non piacerle o anche non essere veritiero. Oggi, mattina. Come può anche? Ma mi scusi, è il Fatto Centrale, no? No, aspetta, però è sicuramente non essendo... Mi perdoni, posso finire? Non essendo però un documento partorito dalle menti dei giornalisti del Fatto Quotidiano. Come no? Quello di oggi? Certo, quello di stamattina. Ma lì ha già risposto la procura, no? Sì, ma non è falso. Ha risposto la procura indagandoli per rivelazione di un segreto. Quindi un segreto fino a prova contraria o è vero o è finto. Ma è più probabile che sia vero, se no non si sarebbero così arrabbiati, no? Tra l'altro lo sai, siamo buoni. Vabbè, comunque, non capisco perché Formigoni, a parte i termini, i modi, eccetera, non può contestare degli articoli di stampa. Io questo francamente non lo capisco. Cioè, non lo capisci? No, perché non si possono contestare degli articoli di stampa, non ho capito. No, qui la questione è un po' diversa. No, la questione non è diversa. Al di là dei termini usati, non capisco perché non si può criticare un articolo. Qual è il problema? È ovvio che si può criticare. Allora, il Fatto Quotidiano ha pubblicato un'informativa. Sì, va bene. Allora, il tema è, l'informativa è vera o falsa? Primo, sì, ma al di là di questo, non capisco perché Formigoni non può criticare, querelare un giornale perché secondo lui scrive il falso. Non ho capito questo. Il tema di ieri. Non può attaccare la stampa. Perché non può attaccare la stampa, dice Mentana? Non lo capisco perché non può attaccare la stampa. Me lo spieghi tu. Si difenda spiegando le sue ragioni. Perché non può attaccare la stampa? Perché non può attaccare la stampa? Spiegami. Ma perché la stampa fa il suo mestiere. Ma cosa c'entra? Se secondo Formigoni la stampa, in particolare due giornali, scrivono falsità o deformano una cosa, non so se sia vero o falso, probabilmente ha torto Formigoni, ma perché non lo può fare? Non lo capisco. Perché non lo può fare? Lo ha dato dei deficienti ai giornalisti. Vabbè, ma quello è un altro discorso, quello sbagliato, quello ha sbagliato. È ovvio che può criticare, nessuno dice questo, e allora? Nessuno ha detto questo. Il tema di ieri era diverso. Ma lascia perdere il documento singolo, il singolo documento. Ma non è il singolo, il tema di ieri era su l'oggetto del contendere, ieri era un documento pubblicato dal Fatto. Sì, sì, siccome la procura poi ha indagato i due giornalisti per fuga di notizie, perché evidentemente notizia, quel documento è vero, d'accordo. È perfetto. E allora i sì, ma il problema è un altro, il problema è un altro. Naturalmente Formigoni non si riferisce solamente a quella roba lì, si riferisce a dei virgolettati che non sarebbero secondo lui virgolettati di interrogatori segretati di Dacò e altre cose ancora. Ha una battaglia aperta legale anche con la stampa. Io non so chi abbia ragione, ma non capisco perché non si può permettere uno di criticare un articolo di un giornale. Cioè, questo francamente non lo capisco. Cioè, non è un attentato alla Costituzione il fatto che ci sia un governatore che pensa di avere ragione. Noi molte volte abbiamo criticato Formigoni qui, che querela, fa delle azioni perché pensa di essere stato, come dire, no, fregato da un articolo sbagliato, da persone che secondo lui hanno travisato delle cose. Non capisco perché non lo possa fare. Dov'è lo scandalo? Non riesco a capirlo. Cioè, non, no, ma infatti fino ad oggi nessuno si era, lui legittimamente attacca giornali che secondo lui scrivono falsità. Certo. Il problema è che ieri qualche volta li attacca in maniera maldestra. Esatto. Il problema è che ieri il presidente Formigoni ha perso un'occasione, perché la notizia non è Formigoni indagato. Sì, era quell'informativa là. Sì, d'accordo. Oh, vabbè, comunque adesso lasciamo perdere. D'accordo, lasciamo perdere questa cosa. Don Mario, non mi ricordo come si chiama di cognome, scrivetemelo per favore. Questa mattina una trasmissione televisiva. Cominciamo bene su Rai 3. I gay sono contro natura. Don Mario come di cognome? Come diavolo fa? I gay con... Diciamocelo chiaramente, è contro natura. La natura dispone l'uomo e la donna come rapporti sessuali, primo, secondo come atto di procreazione creativo del generare un figlio. E questo forma la famiglia. La famiglia non è perché due si amano, ma perché due, amandosi, possano generare l'umanità e creare l'umanità e continuare l'opera che per noi cristiani è l'opera creativa di Dio. Giulio da Grosseto, 800 24 00 24. Buonasera, volevo intervenire su quello che ha detto Casini. Intervengo da elettore del PD, da base del PD, come qualcuno si sciacqua la bocca nei vertici del partito. Sono segretario di un circolo con circa 200 iscritti e non mi vergogno a dire che se il PD fa un'alleanza con il signor Casini, io rendo la tessera e con me molti altri del mio circolo, della mia sezione. Ritengo inaccettabile poter pensare di andare ad elezioni con una persona talmente meschina. Allora, no, lei è iscritto alla sezione del PD di Grosseto? Io sono iscritto, sì, allora il territoriale è Grosseto, sì. E sono a Gavorrano, segretario, sì, di circolo. Segretario di circolo del PD a Gavorrano, giusto? Sì. Lei dice che se c'è l'alleanza, se ci sarà l'alleanza, lei è in consiglio comunale anche a Gavorrano? Sì, noi siamo all'opposizione a Gavorrano. Sì, vabbè, al di là di questo, lei è consigliere comunale a Gavorrano per il Partito Democratico, giusto? Sì. Lei e altre persone del suo circolo, non so quanti, avete deciso, dopo le parole di Casini di oggi, che se ci sarà un'alleanza con l'UDC restituite la tessera, è così? Diciamo che non è che l'abbiamo deciso oggi, ma è già da un po' che si vocifera, che si parla, ci confrontiamo e molte persone, mi creda se le dico, molte persone che non hanno assolutamente in Renzi una stella, anzi che hanno Bersani e che, sì, sono, diciamo, fedeli al partito, tra virgolette, ma stanno riflettendo, stanno facendo veramente una riflessione grossa. Beh, un ascoltatore giustamente mi suggerisce, ma Feltri non doveva essere punito dalla Zanzara se la Minetti resisteva? Sì, caro ascoltatore, lei ha ragione, perché non più tardi di qualche giorno fa Vittorio Feltri ci disse, ve lo prometto io, lo so io, la Minetti si è già dimessa. Invece qui ancora stiamo aspettando, caro Vittorio, ancora stiamo aspettando. Ce l'abbiamo Feltri da far risentire? Adesso lo troviamo, dobbiamo avercelo sempre lì, Feltri, fisso. Fisso, immobile. La Russa sfida, sapete il presenzialista per antonomasia, non Paolini, è un altro che si chiama Fortini. Non sei un cittadino, sei un rompicoglioni, sentite. Poi chi sarà il candidato ci penseremo, magari con le primarie. Certamente anche Berlusconi ha dato. Della Repubblica. No, chi è? Meglio, sette anni fa. Un attimo solo, un attimo. Si tratta sempre alla fuori. Perché? Fuori. Perché? Scusi, io ho fatto una domanda al cittadino. Ma non sei un cittadino, sei un rompicoglioni. Ma poi che domanda ha fatto? Non ho capito, sul presidente della Repubblica, non ho capito bene. Va bene, vogliamo sentire ancora la Bindi furiosa, perché abbiamo nuovi audio sulla Bindi furiosa, la festa dell'unità, la festa del Partito Democratico, scusate. Potevo farmi il mio partito, andate da un'altra parte, poi pare abbiano fatto pace, comunque, Bindi. Se io volevo andare a stare in un partito dove la pensavano tutti come me, ce l'avevo. E forse lo potevo fare anche uno mio, va bene? Se stiamo qui tutti insieme, e ve lo dico chiaro e tondo, è perché io ho bisogno di voi. E se voi non sentite il bisogno di me, forse siete voi che dovete andare da un'altra parte, non io. Beh, combatte come una leonessa, e tutto si può dire tranne che non combatta la signora Bindi, eh. Combatte, in nome di che cosa non lo so, di qualcosa che non si chiama matrimonio, innanzitutto perché non lo vuole. Bersani ha appena detto che ci vogliono le unioni le facciamo gli altri, degli altri non ci interessa, dopo le frasi molto gravi, devo dire, di Casini di oggi. La voglio ripetere, che non le ho ancora ripetute quando abbiamo ripreso la trasmissione. Casini ha detto: i matrimoni tra gay sono un'idea profondamente incivile, una violenza della natura e sulla natura, addirittura sulla natura. E le adozioni, un'idea della società che abbrutisce, eccetera, eccetera, che non progredisce ma regredisce. Questo Casini. Abbiamo avuto prima gente del Partito Democratico che ci ha chiamato dicendo: voglio restituire la destra se si fa l'alleanza con l'UDC. Un ascoltatore, poi un ospite che è già qui in studio. Peccato, Parenzo, che sei non so dove, ma insomma, non lo puoi osservare da vicino. Non lo puoi osservare da vicino. Lo posso vedere alla televisione, certo. Beh, ma non sei collegato con la televisione, dunque non lo puoi vedere. Come no? Comunque, vabbè, adesso fra poco te lo presento. Una persona che conosciamo molto bene, che è tornato da noi, ci fa molto piacere. Andrea da Firenze. Sì, dica. Dottor Parenzo. Allora, prima di tutto, ho sentito stamattina, a proposito del dottor Giannino, sì, che non, insomma, ha detto alla registrazione dell'ultima parola che non si candiderà. Però stamattina, sentendo la trasmissione, sì, proprio di Giannino, ho sentito che a settembre ci sarà una novità. Io tifo. Sì, il problema è che Oscar, per cui noi facciamo il tifo, dice di non volersi candidare lui e di fare però un movimento, che è la stessa cosa di Grillo. Io gliel'ho detto in faccia: caro Oscar, non puoi fare come Grillo, proporti, però non candidarti. Se ti vuoi proporre, ti devi candidare. La tua faccia ormai vale voti, non c'è dubbio su questo. Cioè, adesso non so quanti, ma dei voti li vale. Dunque, proponi di prima persona. Hai fatto tutto nella vita, hai lavorato nel Partito Repubblicano, hai fatto giornalista, hai fatto il ghostwriter, eccetera, eccetera. Ormai che ti resta da fare? Beh, per carità, poi è giovane Oscar, cioè, un'altra esperienza per il paese, come si dice, non sarebbe male. 800 24 00 24. Gabriele Albertini, europarlamentare del PDL, ex sindaco buonasera, di Milano. Buonasera a tutti, anche all'amico Parenzo, vicino nello spirito e lontano nel corpo. Mi sembra che sei in Sardegna, mi hanno detto. Beato Sardegna, te. In Sardegna, caro ti stai sindaco, divertendo, Ma sei andato a Villa Certosa oppure no? Un charter di oggettine o no? Fa lo spiritoso sulle oggettine, signor Albertini. Bisogna un po' sdrammatizzare. Però ascoltiamo Davide, che gli ho fatto una domanda, volevo ascoltare. No, sto facendo un'approfondita inchiesta proprio su questi caravan di oggettine che nel passato sono state scaricate. Ma quando mai? Stai in vacanza, stai. E tra poco vi porterò un grandissimo ospite che è espressione della sarditudine, che è il grande Gavino Ledda. Ma quando mai? Ma non è vero. Stai in un mega albergo in Sardegna, ma che dici? 5 stelle, calla di volpi. Come i miliardari, bravo, come, bravo, con bravo, tutti bravo, questi soldi che ti danno, bravo, le televisioni, i giornali, i libri, tutto. Ricchissimo, Davide è diventato ricchissimo, e scialacqua in Sardegna, scialacqua in Sardegna. Però tra poco vi porterò questa testimonianza di questo grande intellettuale sardo, perché l'idea della Zanzara, caro sindaco, è quella di cambiare un po'. Basta, non è vero, lo dici tu. Diventate dei calabroni invece che delle zanzare. No, ci vuole far diventare seri, invitare professori. Ancora di no, più. No, invitare professori, queste cose qua. Gavino Ledda, grande intellettuale sardo. Ma non è vero. Il padrone tra poco sarà il nostro ospite. Ma non è vero. Lo smentisco. La gente chiude la radio. La gente spegne immediatamente. Barbosissimo, sei un intellettuale. poi no, poi sentiremo anche uno dei più grandi semiologi italiani per cercare di raccontare il paese vero, insomma, secondo comunque me, Giannino a lei piace Giannino Albertini? Sì, sì, mi piace molto, è un personaggio anche suggestivo nel modo di porsi, ma soprattutto il contenuto che apprezzo moltissimo, un vero liberale. Sul fatto poi che ispiri un movimento senza esporsi, beh, non è del tutto improprio, anche perché un conto è fare propaganda e consigliare, è il caso di Grillo, un conto è governare, che è cosa ben diversa, lo sta dimostrando il comune di Parma, no? Ha vinto, però il governo è un po' più difficile. Però scusi, che la propaganda o diciamo l'adesione a un progetto. Certo, un consenso, ma dia un consiglio al signor Giannino, non fare così, cioè non di fare il consigliere. Gli consiglia di fare il consigliere. No, a me, io capisco perché Giannino non voglia esporsi direttamente e candidarsi, perché nel momento in cui entra in una funzione istituzionale non ha più la libertà di consigliare, di dissentire, di criticare, chi ha da pensatore libero. Lui lo guiderebbe questo? Cioè vuole... appunto, però poi diventa una proposta politica, a quel punto lì diventa un insieme, no, di situazioni con cui deve confrontarsi, mentre se resta come ispiratore di un movimento lasciando ad altri il compito di attuare... È più libero, dice lei. È più libero. Senta, come vede il ritorno di Berlusconi? Adesso però non mi sia diplomatico, Albertini, non mi sia diplomatico. Lei è sempre piuttosto cauto su Berlusconi, perché una volta bastonava, un po' di tempo e un po' meno... No, posso citare il libro Roberto Gelmini, in un libro non che, sta al potere, ecco, con la foto di Albertini, un libro leggermente agiografico, un libro, una biografia da vivo, insomma, anche gradevole. C'è una foto con Albertini così torvo, serio, eccetera, l'onestà al potere, la rivoluzione del buon governo. È un libro, come dire, leggermente agiografico, tipo Kim Il Sung. Bisogna leggerlo. Sì, legge, adesso mi sembra esagerato. No, però allora leggiamo solo l'intervista di Berlusconi. No, in questa intervista, perché è stata pubblicata nel suo sito e ha originato il primo, diciamo, impulso in questa direzione del suo rientro da leader del Polo dei Moderati, è stato lui stesso a proporlo, perché l'ha messa sul suo sito questa intervista. Cioè, da febbraio dice Albertini, Berlusconi pensava di ricandidarsi. Come la vede lei? Come la vede lei? Mi dica la verità. Una minestra riscaldata. No, adesso queste banalizzazioni non si addicono al grande personaggio che è Silvio Berlusconi. Ma scusi, ragione Fantozzi, che c'entra lei con Berlusconi? L'ha conosciuto Berlusconi? Il fatto che sono davanti al potere, all'autorità sovrana, mi induce un certo senso di soggezione. Ecco, sono più Fantozzi che Albertini davanti a Berlusconi. Perché diventa Fantozzi davanti a Berlusconi? Per fare un po' di gioco con voi. Ma non solo rispondo seriamente. Allora, c'è un po' di timore reverenziale. Sì, lei ha un ma po' di timore. Più che altro è una riconoscenza. Beh, se leggete alcune lettere che gli ho scritto a Berlusconi negli anni in cui ero sindaco di Milano, non mi pare che ci sia del timore. Però anche lei è soggiogato dal carisma di Berlusconi. Apprezzo la lealtà delle persone e in primo luogo cerco di esserlo io. Ho un rapporto positivo e amichevole con Berlusconi. Ho criticato diversamente da altri che hanno sempre si sono sempre comportati con compiacenza, adulazione, inducendo ulteriori errori. Con viltà, con servitudine. Come si dice? Sono convinto che molte delle persone che lo circondano in realtà sono lì per un loro obiettivo personale piuttosto che per una leale simpatia, amicizia e condivisione nei riguardi dell'imperatore. Chi è il primo di tutti? No, io non faccio nomi, però riferisco alla mia personale opinione. Io sono convinto che il suo ruolo nel nostro partito e anche nella scena politica italiana non è quello di scomparire e di andare, diciamo, come vorrebbe Casini, no? Come vorrebbe no Casini. È quello di, però, sul fatto di presentarsi come leader del suo partito, su questo ho qualche riflessione da fare, cioè, qualche dubbio, diciamo, la scelta che riserva ha fatto era diversa, quella di nominare, sia pure con un'elezione per acclamazione, anche Alfano è stato nominato, nominare un suo, diciamo, suo Delfino successore, con il compito però di rigenerare il partito, ricostituirlo e riproporlo. È fallita questa roba. Se si ricandida lui e si ripropone, è chiaro che questo argomento sembra appunto essere però abortito. Mi dica, è un errore allora? È un errore? Dipende come svolge il suo suo ruolo. È diventato troppo democristiano. No, beh, non è una questione di distinzione. Al leader. Lei vuole sempre il bianco e il nero. In realtà ci sono le infinite sfumature del verde, del rosso, del blu. Però abbiamo un collegamento. Abbiamo un collegamento quello con Giulio Tremonti, che vuole rifare un suo partito. Notizia uscita proprio in questi giorni. Buonasera, buonasera Tremonti. Guardi, Cucciani, io so di essere stato uno dei più grandi ministri dell'economia d'Europa. Sì? Sono un vero leader e mi sembra uno spreco che un vero leader che ha lavorato dietro la scrivania di Quintino Sella vada in pensione. Allora con Umberto abbiamo deciso di fare un partito tecnocratico padano. Ma come con Umberto? Con Umberto Bossi. Ah, ho capito, sì. Un partito tecnocratico padano. Scusi, perché lei va a dare lezioni sull'economia quando ha governato il paese per tanti anni? Perché come dice la nota canzone, non posso più dare cattivo esempio. Allora do buoni consigli. Ah, ho capito. Senta, ma in questo partito per chi c'è spazio oltre che a Bossi? Perché siete due alla fine. Cioè, questo è il pericolo, vero? Nell'antica Roma governavano Uterque e Consul, i due consoli, e noi siamo bravi in coppia. Grazie a Giulio Tremonti, non in collegamento male speciale. Questa è improvvisata, non è venuta male. Non è venuta male questa qua, perché chi era? Era un'imitazione? È passato di qua. È passato da qua, un signore che è abitato. L'abbiamo fatto sedere al nostro tavolo. 800 24 00 24, Dario da Monza, buonasera. Signor Dario. Comunque, guardi, io finché non spunto la frase, Berlusconi, errore candidarsi di nuovo da Albertini perché lo pensa, non me ne vado da qua. Non mollo oggi, Dario da Monza. Per cui ci riflette. Chi rinnega è un rinnegato. Ma non è rinnegare, in questo caso bisogna avere rispetto per le persone. Ma rispetto, comunque, sì, ascoltiamo il signor Dario, che saluta anch'io. Perché Non è che conduce lei adesso. Non voglio sovrappormi a un ascoltatore. È curioso, lei che ha una mente così libera, è un personaggio così, come dire, una mente lucida, soprattutto essendo lucida, calvo. Esatto, da quel punto di vista, lucida anche, sì, naturalmente la stimo moltissimo. Io so che lo pensa, perché non vuole dire è un errore, ma non è mica un tradimento nei confronti allora, di Berlusconi. Se vogliamo fare una riflessione, il nostro partito stava per ridursi a infinite palline di mercurio, perché non è riuscito a produrre un cambiamento per colpa di Alfano, per la colpa di una situazione, perché Alfano è stato nominato, non è stato eletto, Berlusconi è rimasto in campo, sono rimasti i triumviri, allora, non sono stati fatti i congressi. Allora è servito a questo, quindi, la ricandidatura di Berlusconi, il riproporsi di Berlusconi? Da questo momento in avanti la diaspora si ferma. Va bene. Io sono convinto che però non si presenterà a Premier, è una mia previsione. È una sua previsione, ma sarebbe un errore ripresentarsi a Premier? È una valutazione da considerare. Sono sicuro che sia una sua volontà vera, ma che sia una condizione transitoria per cercare di ricompattare il partito e poi farà una scelta diversa. Però Albertini, allora, se le dice è perché pensa che questa cosa sia un errore, cioè dopo quattro volte eccetera sia un errore riproporsi candidato premier. Però il contro, da un certo punto di vista il contro è che sarebbe più difficile ricostituire l'alleanza con gli altri che sono usciti o che sono stati espulsi. Il PPE c'è in Europa e non c'è in Italia, e siamo insieme FLI, UDC e PDL. È chiaro che con Berlusconi che rientra in campo questa alleanza può forse complicarsi, vista la difficoltà degli altri leader. Questo è un dato, è un elemento, e per lei è una cosa negativa. È un fatto negativo, però è un fatto positivo che non ci sia la diaspora e le palline di mercurio del termometro rotto del partito. È diventato peggio dei democristiani. Dario, dica lei. La realtà è più complessa del bianco nero. Lo so, vabbè, ho capito. Come Dario, dice il grande ministro dell'economia. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Dica. Buonasera signor Dario, l'ascolto anche se non interverrò perché la trasmissione, mi ha ricordato Cucciani, non la dirigo io ma la dirige lui. Io ho vissuto Milano, il miglior sindaco, uno dei migliori sindaci di Milano. Ecco, subito una slinguatina. Grazie signor Dario, sono arrossito di vergogna. Pietre, perché ho bisogno di un consiglio. Io devo dare una persona del ritardato mentale. Che cosa rischio? Beh, insomma, dipende. Ci può essere anche la possibilità che qualcuno la citi per diffamazione. Se uno dice lei è un ritardato mentale, insomma, a chi lo deve dare del ritardato mentale? Rischio una diffamazione, mi dispiace. Dipende, se è qualcuno dei presenti, guardi, nessuno la citerà per danni, non si preoccupi. Me lo garantisce? Sì, io lo garantisco. Promesso. Promesso Parenzo del ritardato mentale. A che ha fatto Parenzo? Per come dargli... ha detto, scusi? Vuole dare, ti vuole dare del ritardato mentale? Perfetto, pagato la vacanza in Sardegna. Hai, detto, hai appena detto che non lo citavi. Che fa, sono veramente penosi. Cioè, voglio dire, io capisco la polemica, il gioco, quanto, però andare a trovare il gioco anche nelle cose serie. Dire, quale, scusi, non mi spieghi, quale? Però. Perché altrimenti do del ritardato mentale a lei, io e Dario. Anche lei non mi deve querelare, però. Oh, io non la querelo, assolutamente. E allora mi dica qual è il gioco che ha fatto Parenzo che non si doveva fare. Momenti. Vabbè, lei non ha un argomento, non ha un argomento, è così, contro Parenzo e gli dà del ritardato mentale. Mi faccia un esempio, perché se lei dà del ritardato mentale a Parenzo, ci deve essere un esempio chiaro, lampante. Deve portare le carte. Porti le carte, come dice Parenzo, questo è giusto. Tantissimo la zanzara. Come? Ho seguito tantissimo la zanzara. Ultimamente perdo anche qualche puntata perché ci sono delle cose che non mi piacciono. Ho capito, ma questo non significa dare del ritardato mentale a qualcuno. Scusi, porti le carte, porti le carte. Lei si ricorda come trattavamo e come trattavate, come lui trattava il povero mago Telma, che sicuramente... Beh, guardi, scusa, se è quello il punto, se è quello il punto, abbia pazienza, Dario. Lei non ha carte da... Il povero mago Telma, manco fosse Angelo Parebianco. Lei non ha la pistola fumante, non ha la pistola fumante. Mi dispiace, non la querelerà nessuno, ma dare del ritardato mentale a Parenzo... E questo ci pensiamo. Non ci sono gli estremi per una querela. Altro collegamento, dall'aldilà, l'avvocato Agnelli, vediamo che consigli dà Berlusconi, sentiamo subito. Avvocato, mi scusi, ci scusi se la disturbiamo ancora e facciamo anche le scuse alla famiglia. Non mi disturbate, anzi mi fate riposare, perché qua con le 70 vergini da cui sono circondato farò fare un lavoro veramente pesante. Ma come 70 vergini? Perché 70 vergini? Si pare che sia vero questa cosa del paradiso con 70 vergini. E beh, lei si diverte molto allora. La patonza deve girare. Diceva lei a Berlusconi, no? Dicevo a Berlusconi, a Silvio, sì, proprio così. Ma che consigli dà a Berlusconi adesso? Io gli consiglierei di divertirsi, perché è importante potersi divertire prima di finire qui, dove ci si diverte, ma si fa anche un sacco di fatica con queste vergini. Si possono trovare persone che non sono vergini e si fa meno fatica, insomma. Sono belle ragazze, ma che lasciano passare la cosa senza ostacolarla troppo. Ecco, appunto, dico, dunque il consiglio è quello di divertirsi, basta politica, insomma, basta ricandidarsi, eccetera. Il potere è un grande afrodisiaco, può darsi che le cose vadano insieme. Però comunque il consiglio, ripeto, dell'avvocato è di divertirsi. Se si diverte a fare politica, la faccia, però non ci faccia divertire troppo come negli ultimi mesi, perché questa non è la Repubblica delle banane. Ah, ecco, questo è interessante. Però, adesso scusi, le è piaciuto che ho fatto qualche battuta non da democristiano. Ma no, ma questo qua, scusi, che c'entra lei? L'avvocato Agnelli, effettivamente, lo sdoppiamento della personalità. È che abbiamo le stesse, solo le stesse iniziali, G.A. Gabriele Albertini, Gianni Agnelli. Ma io adesso io credo. Ma perché lei, Albertini, attraverso questa imitazione di Agnelli, in verità tira fuori il suo vero pensiero. Ci siamo nella Repubblica. Sono sul lettino dello psicanalista. Parenzo è di più che un ritardato, anzi, è un avanzato. Non abbiamo ancora chiuso il collegamento. Non abbiamo ancora chiuso il collegamento con l'avvocato Agnelli. Ma scusami, però io devo parlare ancora con l'avvocato Agnelli. Non possiamo disturbare le persone dell'aldilà e poi non salutarle. Il signor Dario è ancora in linea. Signor Dario, no, non è più lì. Ah, non è più lì, perché volevo parlare con lui sul ritardato mentale. L'importante è non essere ritardato da un'altra parte. Cioè, in che senso? Non voglio dire, il turpiloquio non è ammesso, né in paradiso né in questa radio, che oltretutto è di Confindustria, certo. Quindi dobbiamo conservare. Che lei conosce bene Confindustria, no? Ne sono stati i presidenti, uno dei grandi protagonisti. Che ne pensa il dottor Squinzi, lei avvocato, dall'aldilà, di questi primi passi? È andato a braccetto con la Marcegaglia, con la Camusso, insomma ha detto delle cose, delle frasi anche. Lei dall'aldilà, avvocato, che ne pensa? Dovrebbe darsi una mano di vernice per rinfocolare un colore più nitido, più lucido. Cioè, mi spieghi? Visto che ha una grande impresa di rivestimenti, peraltro io apprezzo e sono un grande sincero amico di Squinzi, era anche compagno di classe di mio fratello. Però, no, devo dire, questa cosa mi fa piacere, poi rispondo. Ma non è lei mio che fratello e Squinzi hanno avuto 10 in matematica e facevano il liceo fratello, scientifico. Sì, è vero, erano compagni di classe. Erano compagni di classe, Milano Villaggetto. 10 in matematica nel tempo in cui non c'era il 68, quindi 10 in matematica era una cosa in un importante liceo di Milano, molto serio. E quindi mi fa piacere accostare questa eccellenza nella capacità di fare i conti. Al di là di questo, insomma, qualche infortunio può capitare. E dunque, avvocato, come ha visto questa? Lei ci sarebbe stato accanto alla Camusso lei a parlare? Potevo starci accanto, ma le avrei fatto fare un bagno prima di accostarmi. Perché? Ma non so, magari suda un po' troppo in questo periodo. Ma che ne sa lei che la Camusso? No, dico così perché insomma, essendo io un padrone, qua siamo rappresentanti dei lavoratori, un odore di fabbrica, afrore. Bene, avvocato, grazie. 800 24 00 24, andiamo a sentire Carlo da Milano. Buonasera, Carlo. Carlo, buonasera. Dica. Volevo dirle che Cruciani, con tutta la simpatia, ha ragione Sgarbi. Su che cosa, scusi? No, sul fatto che vi becca sempre a dire che avete rotto le balle sui matrimoni gay. Tornate a parlare un po' più di gnocca. Sì, perché non parliamo di solito di... Non parliamo... Senta, ma potete, in un giorno così, secondo me, posso dire la roba, adesso, con tutto rispetto per i matrimoni gay, cioè, ma visto cosa è successo... Scusi, ma non ho capito questo argomento, scusi. Ma parla anche la Bindi. Ma qual è il problema, scusi? Qual è il problema? Il problema è che... Cioè, parlate troppo. Ma che troppo, cosa devo fare? 2 ore e mezzo di trasmissione sullo spread a 500? No, mi spieghi, ci sono. Ma che non ho capito qual è il problema. Francamente, non lo capisco. Per dirle oggi, secondo me, l'argomento. L'argomento qual è? Qual è? Che secondo me, sì, oggi si è certificato che i geni che ci sono su sono uguali a quelli che c'erano prima. Sì. E allora io dico. A parte che questo è discutibile, naturalmente. È discutibile. Diciamo comunque ne parli lei, se vuole intervenire sullo spread a 500 e sulle differenze tra il governo Berlusconi e il governo Monti, intervenga lei, perché mi deve costringere a fare quello che non voglio fare? Non vuole ascoltare questa trasmissione? Non l'ascolti? Secondo me parlate troppo di matrimonio, cioè parlate troppo di questo argomento che secondo me non interessa. Comunque guardi, ci serve un autore alla Zanzara, venga a fare l'autore da noi, non è un problema. Ma pagate? Beh, certo, che facciamo? A gratis. Non ho capito. Io sono anche bravo a scrivere. Bravo. Allora, venga, mandi. Però è partito già male. Se pensa che dobbiamo fare una trasmissione sullo spread a 500, è partito malissimo. Glielo dico subito. Sono d'accordo. Comunque, guardi, in tutti i siti di informazione, non è che siano la Bibbia. L'argomento principale è, oltre alla strage di Batman, oltre alla vicenda dello spread, ci sono le frasi di Casini. Casini all'attacco, duello con Bersani sui gay, eccetera. Per cui, veda lei. Faccia lei cosa vuole che. Ma Bettini, lei è d'accordo col matrimonio gay? No, assolutamente no. Io sono d'accordo sul fatto di poter vivere liberamente la propria attitudine sessuale, però il matrimonio è una cosa nettamente diversa da regolare i propri rapporti anche omosessuali con i riconoscimenti. Le adozioni le trovo improprie perché... non aberranti. No, li trovo fuori luogo perché il padre e la madre, non è necessario aver studiato la psicanalisi o essere stato sul lettino dello psicanalista per capirlo, cioè il rapporto parentale tra la femmina e il maschio è qualcosa che fa parte della nostra vita, della nostra natura. E cos'è che disse Bossi una volta di lei, non mi ricordo? No, a me famoso scherzo dell'Albertina della candidata, aveva messo in giro la voce che io sarei stato un omosessuale, naturalmente è tutta una sua invenzione, poi vabbè adesso non lo riracconto un'altra volta, la storia del pesce di nome Wanda, assolutamente. Comunque assicuro che non sono mai stato omosessuale e me ne sarei accorto, né ho intenzione di farlo, non è un crimine, però siccome ho negato il gay pride e erano in quegli anni in cui c'era ancora questa favola della mia presunta... Che brutta cosa, negare il gay pride. No, non è una brutta cosa, è un fatto di coerenza, perché... Ma che c'entra? Il patrocinio, cioè negato il patrocinio, il patrocinio, non il gay pride. Come certo. No, non posso impedire, ci mancherebbe, le manifestazioni democratiche e libertà. Ma perché le coming out? Nel PDL non c'è nessuno che fa coming out, secondo lei? È possibile che sia un partito in cui non c'è una persona che fa coming out? A livello nazionale, importante. Non lo so perché non lo fa. Se sono omosessuali. Lei li conosce omosessuali nel PDL, sì? No, nel PDL omosessuali direi di no. Saprogio e me, perché c'è da ridì. Non vedo che problema c'è, mettiamola così. Saprogio e me. Eccoci qui, 800 24 00 24. La Zanzara riprende con noi in studio Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano, europarlamentare del PDL, però collegamento con uno dei protagonisti degli ultimi giorni, con Umberto Bossi, il quale ha attaccato Maroni. Buonasera senatore, come sta? Buonasera. Il capo sono io. Ma come il capo è lei? È Maroni eletto. Potrei fare una scissione. I cani piccoli abbaiono molto, ma non fanno paura. Beh, questi, io abbaio poco, ma ho dei denti da affamato. Da affamato di potere. Di potere? Sono sempre Bossi, sono sempre l'Umberto. Ho capito. Sono sempre l'Umberto. Ma ormai il segretario è Maroni. Maroni ha rotto i coglioni. Ma come ha rotto i coglioni? Diventato segretario. Maroni ha rotto i coglioni. Ma perché ribadisce sempre che è lui il segretario? Però ormai il segretario è un altro. Il segretario sono io il segretario, l'ho fatto io, l'ho costruito io. Io ho fatto come Salomone. Non ha tagliato in due bambino per lasciare in vita la Lega. Ho capito, ma no, Umberto, senatore, la questione qui è chiara. Maroni lo ribadisce ogni volta. C'è un segretario e poi lei è il padre fondatore senza poteri, dice Maroni. Sono il padre, il carisma. Il carisma del leader, del fondatore. E non ce l'ha Maroni? Maroni ha rotto i coglioni. Chissà se pensa veramente così. Chissà, sì. Forse c'è peggio. Un pizzico di sofferenza in tutto questo che va rispettato, secondo me. Perché un fondatore di partito che è stato certamente onestissimo in tutta la sua esistenza e che è stato negli ultimi tempi indebolito dalla sua malattia e dal cerchio magico, sappiamo com'è andata, non avrebbe fatto alcuni errori. Ha indebolito un caso. Come? Indebolito, sempre duro. So che quello è sempre duro. Questo è il fratello gemello di Bossi. I due Bossi. Parenzo è più bravo, devo dire. Il devo Bossi sentire Parenzo le che sue dice imitazioni per fare meglio. Il Bossi Parenzo sull'indebolimento che dice? Indebolimento, te lo faccio vedere io. Attenzione, quando sono indebolito, te lo faccio vedere io. Sempre duro. Ma Manganello. Ma scusi Bossi Parenzo, ma Albertini in cuor suo vorrebbe essere il prossimo governatore della Lombardia, lei che dice? Questo è un commento politico. Hai fatto una scorreggia dello spazio, come dicevo di Miglio, adesso posso dire di Albertini. Albertini è una scorreggia dello spazio. Lei aspetta solo le dimissioni di Formigoni, vero? No, ci mancherebbe. Io... che gode come un pazzo. Gode come un matto. Posso godere, ma non per questo. E perché cosa gode lei, Albertini? Quante volte fa l'amore lei, Albertini? Non lo so, lo dovrei chiedere a mia moglie. L'ultima volta che l'abbiamo fatto non me lo ricordo. Ma come non se lo ricordo? Ma una cosa gravissima. No, ma sono modesto, non voglio viziarla troppo, sai. No, scusi, quanto, una volta al mese? Ma veramente non mi ricordo l'ultima volta che l'ho fatto. Un grande leader fa l'amore sempre, tutti i giorni, per il suo popolo. Non ha il tempo per le donne, cioè, per tutte le donne, non per una sola. No, però scusi, potrebbe pensare di seriamente, adesso mi rivolgevo a lei, ma quante volte fa dell'orango? Volte fa l'amore lei? Ma saranno fatti miei, per non dire altre cose. Ma lei lo sa che ormai per lei la Zanzara è una casa di vetro, molto trasparente. Poi mi ritrovo le ansie in giro e ho le mie difficoltà a spiegare le cose che mi fate dire qua. No, ormai quel tempo è passato. Io quel cerco tempo di resistere per il mio passato gesuitico, ma siete tremendi. Poi quando siete in due insieme, adesso finalmente uno non è qui, perché quando invece ci troviamo a Strasburgo siete pazzeschi. Non so come faccia a sopravvivervi. Veramente, le segrete di Arcole si sono aperte più volte. Quante volte? Una volta al mese è giusto, no? Non mi fate dire cose che io non una non volta voglio. Ogni due mesi è gravissimo. Non rispondo a questa domanda, fa parte della mia vita privata. Vabbè, comunque. E non solo della mia, evidentemente. Usa per caso delle precauzioni? mi state inducendo in una confessione impropria. In tentazione. Cose private. Queste sono cose private. Però diciamo, si potrebbe confermo fare anche. Confermo che non sono omosessuale. Bisogna fare anche una grande campagna per i preservativi, per i condom. Questo l'avevo fatta a suo tempo. Appunto. Anzi, avevo anche lanciato un'idea. Io li uso, adesso anche voi. Racconto questo episodio che è divertente. Giunta municipale, c'era il problema della distribuzione gratuita dei preservativi. Alcuni favorevoli, altri contrari. Racconto del passato. Sì, ma è interessante, allora? Divertente. Allora faccio uno scherzo, siamo dei mattacchioni, e propongo di fare girare dei preservativi diciamo, sì, finanziati sì. dal comune, con le caricature degli assessori e anche la mia. Sì. Per cui chi non era, chi non era favorevole, doveva fare l'amore con il presidente, no, chi non era favorevole poteva sempre pensare che l'assessore tal dei tale o il sindaco era una testa di dove finiva, insomma, ecco, tutti che prendono la cosa un po' sul serio ne discutono e poi dicono: ma scusate, io sto scherzando, questa non è. Ma sarebbe stata un'idea grandiosa. Però era partito una discussione seria su questo argomento. Ma perché non l'avevo messa anche bene, cioè è un fatto di autoironia, è un fatto di umorismo anche. Potrebbe riproporla Albertini questa cosa, distribuzione preservativi con la decalcomania delle facce dei politici, così tutti si divertono. Beh, spettacolare, un'idea bellissima. Potrebbe anche di marketing. Sì. Facciamo un dibattito. Allora, Albertini propone a grandi aziende. Io non propongo, ho raccontato un episodio che è stato uno scherzo. Trasformiamolo in una proposta. No, adesso non esagerare. Propone preservativi con le facce dei politici. Che ho fatto in giunta. Però lei lo farebbe, preservativi con la faccia dei politici. Ma beh, potrebbe essere un'idea per chi li fabbrica, magari qualcuno si diverte a fare. Beh, sarebbe anche un'idea un po' per avvicinare. Dei leader mondiali, per avvicinare la politica, Lenin. Personaggi della storia. Questa la voglio lanciare, Albertini. Albertini lancia una grande campagna. Questa la lancia Cruciani interpretando a sua sponte e con tutta la responsabilità della sua inventiva un racconto, un episodio di uno scherzo che ho fatto ai miei simpatici collaboratori e amici di giunta. No, ho fatto uno scherzo. Laninetti si deve dimettere o no? Da che cosa? Ah, da consigliere. Ma più che altro, più che dimettersi, adesso magari vuole prendere il vitalizio, dice, no, è quello il motivo, ma vuole arrivare fino sì, a ottobre. Forse no. Ho ritenuto improprio che fosse stata candidata. Ecco, ma chi era candidata? Perché qualcuno dice Formigoni con i consigli di Don Berzè, altri dicono direttamente Berlusconi perché era amica di Berlusconi. Ma non so come sia andata, lei, però secondo me credo che sia stato il presidente Berlusconi, anche per come ha seguito l'intera vicenda. No? Anche per l'interesse che aveva nei confronti di questa ragazza, no? Beh, non l'ha mai negato, non l'ha mai negato e l'ha sempre confermato, quindi credo che il desiderio fosse venuto da lui, condiviso da altri. Ecco, è stato un errore questo qua di candidato. Beh, ormai insomma è dimostrato che per tutte le conseguenze che ha prodotto e anche le polemiche che ci sono poteva fare moltissime altre cose senza entrare nelle istituzioni. Non c'è dubbio. Ma come mai adesso si pone la questione delle dimissioni? Non è che è intervenuto un fatto nuovo, questa ragazza in fin dei conti non ha fatto niente di particolare. Anche lo stesso Berlusconi forse si è accorto che quella candidatura in quel momento, con quelle forzature, con quello che ne è seguito, non ha portato un contributo positivo al consenso intorno a lui, intorno al partito, alla serietà di chi lo rappresenta e così via. Diciamo, perché per riproporsi in politica ci vuole un po'... Ma poi c'è una meritocrazia nelle scelte istituzionali, cioè il consenso dei cittadini non può essere... Ma non è che si può scoprire con la due anni dopo lo dico alla boss a riconosce il proprio errore su fega il biasim e renda l'onore. Ma il problema è che dovrebbe essere riconoscere il proprio errore. L'errore bisogna anche ammetterlo. Vabbè, ma insomma il fatto che si induca alle dimissioni una persona che è stata diciamo messa in un listino bloccato, quindi con la certezza di essere eletta passando la fila dei congressi o delle preferenze o dell'attività politica che lo giustifica, vuol dire che si riconosce di aver fatto un errore, no? Ultimo collegamento, quello con Ignazio La Russa, sempre arrabbiato, la vediamo ultimamente. La Russa, come mai? Pronto. Buonasera. Cruciani, buonasera. Buonasera. Buonasera, Cruciani. Allora, perché è sempre arrabbiato ultimamente? Io soffro di fegato. Ho capito, però. Fegato grosso, mi fanno incazzare, mi fanno impazzire da quando non sono più ministro della difesa e non posso più guidare i mezzi Lince. Sono arrabbiatissimo. Ma anche Forza Italia la fa arrabbiare l'idea Cruciani, non la sento bene. No, dico, anche tornare, l'idea di tornare a Forza Italia la fa arrabbiare. No, l'Italia sì, ma la forza è nostra, non è di un altro partito. Noi siamo Alleanza Nazionale. Ma non c'è più Alleanza Nazionale. La rifacciamo, la destra europea, la Chirac. Ma è vero, ma che c'entra Chirac con noi? Non lo so, mi è venuto in mente adesso, mi piace il suono, Chirac, mi piace. Dovete fare arroganza nazionale, arroganza, bella idea, Barenzo, tu sei un genio, arroganza nazionale, è il nostro partito, bravo. Mezzi Lince. Scusi un attimo, La Russa, ma è vero l'idea? Pronto, brava Danielina, no, sei moderata adesso, noi supportiamo il governo Monti, non esagerare. Moderata, brava Danielina, brava Danielina. No, scusi, ma mi è venuto sull'auricolare da Santanché. Ma attacca il governo Monti, ha sprombattuto la Santanché. Deve moderarsi, siamo moderati, non dobbiamo, perché siamo al governo, all'opposizione. Questo non è una cosa nostra, è una cosa loro. Scusi, della sinistra. Certo, ma ultimamente lei ha detto che ogni cosa Luciani, non la sento bene, che c'è? Che vuole, che devo dire? Pronto. Ogni volta che parla Gasparri, qualsiasi cosa dica, ha ragione Gasparri. Come se l'ha sentita quella cosa? Se la ricorda quella cosa, no? No, non mi ricordo cosa Gasparri. Lei ha detto una volta, per me qualsiasi cosa dice Gasparri va bene. Va bene, mi piace Gasparri. E siamo due gemelli, anche noi. Siete gemelli come voi. Bossi e Tremonti. Siete anche gemelli noi. Anche voi. Sì. E la Minetti, che dice della Minetti lei, la russa? Non dico niente, mi piacerebbe fare più che dire. Ho capito, però qui la questione è... sono sposato, non posso. Divisioni sì o divisioni no? Sono un fatto personale le dimissioni, come ha detto il Celeste. Era il mitico La Russa, interpretato da Gabriele Albertini. Grazie, a presto Albertini. Grazie. Ma la Santanché quante volte la chiama al giorno? La Santanché continua a chiamarmi, mi rompe le scatole tutti i giorni. Moderata, non moderata, basta. Fatemi fare un giro su mezzo lince, mi diverto un po'. Caro Parenzo, un saluto a distanza, bravo in vacanze in Sardegna. Ciao. Eccoci qui, 20:13, 800 24 00 24, La Zanzara, Angelo da Barletta, buonasera. Buonasera, che vuoi Parenzo, che vuoi? Dico, tra qualche minuto ospite alla Zanzara Gavino Letta per raccontare... Ma non me ne frega niente, caccialo via se fosse così, non è vero, non lo voglio, non è vero, a parte che non è vero, se fosse così caccialo via, Angelo da Barletta. Sì, chiamavo Letta, per la vostra sollecitudine nell'invitare Oscar Giannino ad entrare in politica. Io invece la penso totalmente al contrario, perché apprezzo la sua onestà intellettuale e le sue capacità di andare a fondo nello studio delle cose, quindi mi servirebbe proprio lui per illustrarmi ciò che non va o ciò che va quando c'è qualcuno al governo. Inoltre si potrebbe invitare anche voi, visto che avete dei buoni rapporti con i vari parlamentari e riuscite a metterli a loro agio, a fare i ministri per i rapporti col Parlamento. Guardi Angelo, lei può tranquillamente essere contro la candidatura di Giannino, naturalmente, cioè, non c'è il minimo dubbio, ma dov'è il punto? Che apprezzo l'opera che sta svolgendo adesso, cioè di critica, di illustrare quello che non va o quello che andrebbe fatto. E allora? E quindi in politica non lo voglio, perché verrebbe a mancare questa figura. Non è vero, uno può essere se stesso anche in politica, dipende naturalmente dai contesti, dalle situazioni. E poi comunque quando uno dice voglio lanciare una mia lista con le mie idee, raccogliendo intorno a me o intorno alle mie idee una serie di persone, poi deve spendersi in prima persona, non può rimanere così alla finestra. Cioè, questo che io trovo incomprensibile, con il grande affetto che ho nei confronti del signor Giannino, di Oscar. Ma comunque, si è detto che non si candida. Sì, ho capito, però secondo me è un errore. Cioè, è un errore. Cioè, se presenta delle liste, se fa delle operazioni che significano scendere in politica, portare le proprie idee, eccetera, eccetera, e poi non si presenta in prima persona, francamente è una cosa che a mio parere è incomprensibile. Francesco da Cagliari, buonasera. Buonasera. Dica. Volevo dire due cose sulla questione del matrimonio gay, ma anche sullo scherzo a Parenzo che avete fatto con Fiori. Sì, guardi, la sentiamo male, forse la viva voce o cose di questo tipo, la sentiamo con un suono strano, un suono un po' gutturale. Allora? Forse qualche tacchetta, me ne segnale. No, perché durante l'intervento la Santanché aveva già minacciato un me ne vado, lascio la trasmissione. Cosa che poi è avvenuta, la notizia della richiesta dei soldi con la distanza molto preoccupante, perché era abbandono del posto di lavoro. Era uno scherzo, su. Era uno scherzo, Francesco, era uno scherzo. Allora? No, ma avevo paura che fosse un po' preparato. Siamo qui, andiamo a Torino. Claudio, buonasera. Buonasera al gatto e alla volpe. Sì, chi è il gatto e chi è la volpe però qua? E il gatto è il signor Parenzo, sì. E la volpe è lei. Vabbè. Per quanto mi riguarda. Sì. Io avevo telefonato per il discorso di le parole dette da Casini, però è stato molto divertente. Che ripetiamo, parole gravissime, Casini. Secondo alcuni, gravissime. I matrimoni tra gay sono un'idea profondamente incivile. Aspetti, però... me la fa ripetere o no? I matrimoni tra gay sono un'idea profondamente incivile, una violenza della natura e sulla natura, è un'idea della società che abbrutisce, secondo il signor Casini. Casini. Volevo dire. Lei è d'accordo o no, Claudio? No, io sono d'accordo con Casini. Con Casini. Assolutamente d'accordo con Casini. Cioè, secondo lei i matrimoni tra gay sono un'idea profondamente incivile. Allora, oggi come oggi, i matrimoni tra eterosessuali quasi che stanno scomparendo, vanno... Voglio dire, ci sono un mucchio di divorzi e ma questo che c'entra, che scusi. Si sposa e convivono. Allora, io sono d'accordo che abbiano dei diritti, sì. E devono avere tutti. Però non in matrimonio. Matrimonio? Ma qual è la necessità di sposarsi? Non capisco qual è la necessità. Se le persone eterosessuali vivono tranquillamente senza sposarsi, perché loro si devono sposare? Ho capito, Claudio, ma cosa vuol dire questo discorso? Vuol dire che è come dire una coppia che non può avere figli, perché deve avere figli in un altro modo se non può avere figli? Che vuol dire? Cioè, le cose vanno avanti oppure indietro a secondo delle proprie convinzioni. Ma guardi che il discorso che ha fatto il sindaco Albertini è perfetto, calza a pennello. Non si può fare una famiglia e tenere dei bambini o due donne o due uomini. Ma questo è un altro discorso. Questo riguarda l'adozione, è un altro discorso che riguarda l'adozione. Lei dice che vanno insieme i due discorsi, se viene l'uno viene l'altro. Secondo me non è possibile, loro hanno diritto come tutti noi, ok? Sì. Diritto a che cosa, scusi? Tutto quello che abbiamo noi, però il matrimonio e l'adozione è una cosa, io sono d'accordo completamente con Casini. E vorrei lanciare anche una proposta che ha fatto il sindaco Albertini. Fare i preservativi con la faccia di Parenzo, secondo me ne vendete a milioni. Questa non è male, però. A milioni. Bene, qui scatta la seconda querela, posso prolungare il mio viaggio di un'altra settimana a questo punto. 800 24. Ma ti pare normale che una ragazza vuole fare i preservativi con la mia faccia? Dai, su, e staci. Una volta eri abituato a combattere, ma a uno così cos'è che gli dici? Ma niente, vuole fare i preservativi con la tua faccia. Albertini voleva fare i preservativi con la faccia dei politici, figuriamoci un po'. Ho capito, però abbiamo in collegamento dalle sue vacanze in Trentino Alto Adige, gli rompiamo le scatole, l'altro Casini, che non ha nessuna parentela, ma insomma è molto vicino a Pier Ferdinando Casini, che oggi ha fatto scoppiare un bel casino nella politica italiana, soprattutto con il Partito Democratico, l'europarlamentare dell'UDC, stesso partito, Carlo Casini. Buonasera. Sì, buonasera. Come sta? Del movimento della non vita, certo. Vorrei almeno qualche giorno riprendere le energie per combattere, e sto riprendendo. Va bene. Poi in montagna ci si va la mattina, a quest'ora alle 20:20 si sta belli in baita. Sì, va bene, però bisogna soprattutto il cervello che deve essere tutto fuori da tutte le direttive per 2 o 3 giorni e basta. Lo so, ha ragione. Poi è arrivata sta cosa qui dei matrimoni. Sì, fare? Dai. Lei immagino è d'accordo non al 100, al 300% con Casini, no? Cioè, mi sembra mi sembra scontato. Ho già scritto tutto quello che penso sull'argomento in un libro intitolato Famiglie di fatto, matrimoni, figli. Sì. Leggetelo, edizioni fiorentine, e trovate tutto quello che penso sull'argomento. Certamente sono contrario al matrimonio omosessuale, sono per la eguaglianza e la libertà di tutti, ma libertà e eguaglianza di tutti non significa promozione e valorizzazione come bene pubblico. Un conto è la fondamentalità della famiglia fondata sul matrimonio, un conto è il privato desiderio di realizzare le proprie aspirazioni, e lo Stato deve garantire questa libertà, appunto. La libertà esiste, no? La libertà esiste, fino a prova contraria, di essere omosessuali esiste, no? Perché non è che uno può proibire di essere omosessuali. Ecco, però, secondo lei manco i diritti, dunque, ve ne so, la reversibilità della pensione, il permesso di visita quando è negato, negli ospedali. Lei non è d'accordo nemmeno su questo? Ma veda, allora, qui il problema è di capire, io sono giurista, e parto dall'articolo 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che dice: la famiglia è nucleo fondamentale della società e dello Stato. Sì. E come tale deve essere riconosciuto e protetto. Sì. Fondamentale cosa vuol dire? Ma perché una dichiarazione universale deve dire che la famiglia è il nucleo fondamentale? Sì. Questo che fondamentale vuol dire? Vuol dire che se non c'è, crolla tutto. Allora, è certamente la potenzialità genitoriale quella che fa il carattere fondamentale. Il resto, la compagnia come tale. Sì. Ma perché due persone che vivono insieme senza rapporti sessuali, la badante e il badato, fratelli, sì, persone che vogliono fare il bene nel terzo mondo e vivono insieme, non devono avere la pensione di reversibilità? Ma invece l'omosessuale sì. Qual è la perché quelli si amano magari. E perché due persone che non vanno a letto insieme non possono amarsi in amore purissimo e generoso, un amore, come dire... Ah, non so, diamolo pure a loro allora, la questione della pensione, allora, eccetera. La proposta è singolare, perché in questo momento di grandissime difficoltà economiche ho l'impressione che anche nei conventi, perché non i conventi? No, però perché tutte le persone che vivono insieme non dovrebbero avere la pensione di reversibilità l'uno sugli altri. Però esiste ormai, professor Casini, esiste una cosa abbastanza accertata nel mondo occidentale, che è l'unione tra omosessuali, cioè una coppia omosessuale esiste ormai ovunque, cioè, nel mondo. È diverso dal badante, come direi, il badato, tra le cose che avvengono in un convento o altro. Esiste ormai una cosa accertata, che è l'unione tra gli omosessuali, unione d'amore e poi anche eventualmente di sesso tra omosessuali. Ora, questo rapporto, secondo lei, che rapporto è? Un rapporto innaturale? Secondo me è un rapporto che non è naturale, però è un rapporto che, se le persone vogliono esercitarlo, perché hanno queste tendenze, cioè sono libere di farlo, e se qualcuno lo impedisce, lo Stato deve intervenire con la sua forza, certo, per lasciare libere le persone. Però, però secondo lei non si ha, è finito lì poi, cioè poi non si ha diritto per questo avere dei, non si ha, come dire, la possibilità di avere dei diritti su questo, cioè non si può pretendere la pensione da una persona all'altra. Io pongo la domanda: il valore che lo Stato deve proteggere è la compagnia, cioè il fatto che delle persone vivono insieme per uno scopo che può essere cattivo, pensiamo all'associazione per delinquere, ma pensiamo allo scopo buono, una compagnia per fare il bene agli altri, e perché è una compagnia anche che... Cioè, per lei l'unione omosessuale è una compagnia? È una compagnia, la quale ha la caratteristica di andare a letto insieme. È l'andare a letto insieme il valore? Beh, ma è finito, che ragionamento è? Ma non si non può, cioè, però scusi, in tutto il mondo, allora, sono pazzi. Ma scusi, quello? È un pazzo Hollande in Francia che dice che bisogna fare i matrimoni gay e l'adozione? È pazzo, lei come lo considera? Lei che è parlamentare europeo, signor Hollande? Ma io credo che sia, tanto la materia è complessa, bisognerebbe distinguere una serie di situazioni. No, quello ha detto, però, chiaramente, matrimonio gay e adozione. Però voglio dire, gli errori nella storia ce ne sono tanti. Un tempo c'era la schiavitù, l'abbiamo abolita. C'era la discriminazione dei neri, l'abbiamo abolito. C'era la discriminazione sulle donne, l'abbiamo abolito. E beh, che c'entra ora, questo? Lei considera... Non paragonare la schiavitù all'omosessualità, ma io non cosa capisco. Cosa voglio dire io? Voglio dire che ciò che fanno i più non è detto che sia il vero o che sia il giusto. No, sì, no, ma questo l'ho capito, però è il presidente francese, cioè non è che lei dice, è il Cameron, che è un conservatore in Inghilterra, dice esattamente la stessa cosa. Io non dico che hanno ragione, però lei non mi può dire, però nella storia si fanno tanti errori. Sì, io devo dire, ognuno faccia quello che crede. Quando ci sarà una maggioranza in Italia che ritiene di deliberare il matrimonio gay, la maggioranza purtroppo farà, certo, il più possibile perché questo non avvenga. Molto scusi, semplice. Però... ma mi sembra normale paragonare la schiavitù, ha fatto l'esempio la schiavitù all'omosessualità, sì, ma mi sì. pare una... No, era un ragionamento che portava a dire ci sono stati degli errori nella storia dell'umanità, e secondo Casini evidentemente il fatto che rispetto, sta dicendo una sciocchezza madonnale, abbiano un certo comportamento, una certa opinione, non è detto, non giustifica che questo sia vero. No, certo, ho capito. Secondo lei le unioni omosessuali, se fossero allargate in Europa a tutte, porterebbero all'estinzione dell'umanità? Insomma, adesso, se davvero in questo momento tutti nel mondo diventassero omosessuali, tutti quanti, le donne si uniscono alle donne, gli uomini agli uomini, credo che ci sarebbe un effetto simile alla bomba atomica. Cioè, questa sarebbe l'ultima delle generazioni, almeno di non ricorrere all'altra cosa assai negativa, che è la provetta. Ma non credo che la provetta possa esserci senza uomini e senza donne. Adesso io parlo per paradossi, però il paradosso è questo: se per avventura la distinzione sessuale tra maschio e femmine cessasse, cesserebbe la storia. Non c'è dubbio, non ci sarebbe una generazione futura. Ecco perché la differenza sessuale è una questione fondamentale, ma senza discriminare, senza rispettare. No, ma questo nessuno. Ho capito, però scusi Casini, è anche curioso, se no, lui dice che non c'è bisogno di riconoscere i diritti perché bisogna privilegiare la famiglia tra uomo e donna. Dunque, in realtà è una posizione addirittura più una posizione, io lo definisco oltranzista, ma non do giudizi, più oltranzista rispetto a quella di Casini, che invece oggi dice bisogna riconoscere dei diritti alle persone conviventi. Invece Casini, certo. Io no, sono d'accordo che conosce i diritti che spettano a tutti le persone conviventi, sia che siano omosessuali sia che non siano omosessuali. Se io voglio andare a trovare un amico che sia convivente o non convivente, ma quello vabbè, d'accordo, in ospedale, sì, ho diritto di andare a trovare, è un'altra questione. Sì, però per esempio la reversibilità della pensione lei dice di no. Per la reversibilità della pensione dico di no, perché sarebbe un carico enorme per lo Stato, perché oltretutto non si capisce perché in altro tipo di compagnie ugualmente più notevoli addirittura non ci sia la pensione di reversibilità. Per esempio, è la compagnia il valore, allora la facciamo per tutte le compagnie e non solo per due, ma anche per solo tre o quattro. Qual è quella se più lodevole? Compagnia, qual, è, valore, qual è quella più lodevole di compagnia secondo lei? Curiosa ma la parola so, compagnia. No, ma vuol dire si può, veramente si può stare insieme. Lei pensi per esempio, adesso mi vengono in mente questi scienziati che hanno lavorato insieme per scoprire qualche farmaco per salvare gli uomini. Lei pensi ai professorini, la Fira, la Zati, chi era l'altro che ora si è fatto a Monaco, i quali hanno vissuto insieme per pensare a come risolvere il problema della politica italiana dopo la procedere dell'ultima guerra mondiale. Sì. Allora, è la compagnia che fa il valore? O questa la compagnia si muove nel privato? Ma è diverso, lì ci sono persone che si amano, se due uomini si amano e vogliono unirsi in matrimonio, perché non lo possono fare secondo lei? Di fatto loro lo facciano, ma non possono chiedere allo Stato il riconoscimento di valore uguale a quella del rapporto uomo-donna che ha una funzione pubblica. Gli uomini sessuali sono gente tali e quali come noi. Problemi loro, sono froci, problemi loro. Noi normali. Questo era Cassano, multato oggi per 15.000 euro. 15.000 bene, euro. Bene. Ma che bene, male. Io sono a favore dei matrimoni gay. Però considero assurdo che l'Europa del calcio abbia multato per 15.000 euro Cassano per frasi dette durante una conferenza stampa. Trovo ridicolo. No, no, è una questione assurda. Casini, lei che dice che è europarlamentare? Paga 15.000 euro, sono contento, godo, come un pazzo. Se le devo dire, su questo posso darle ragione, sempre sulla questione degli omosessuali sono in disaccordo, non so se con lei, ma comunque con chi pretende il matrimonio. Sì. Ma sulla questione di queste sanzioni così severe, se uno la pensa in un certo modo, vabbè, lascia perdere. Appunto, ma c'è quasi l'omofobia non è onorevole Casini dice delle cose gravissime, scusi, ma cioè, voglio dire, Casini si renda conto, l'omofobia in Europa è considerato un reato soltanto in un paese incivile come l'Italia, stiamo ancora a parlare di questo. Mi meraviglio di lei che è anche un cattolico cristiano credente, cioè che dovrebbe combattere qualsiasi discriminazione. Pensi ai cristiani perseguitati nei paesi arabi, ma di che parla onorevole Casini? Coraggio, su, altro come che risponde per la vita. Come risponde? Movimento della morte, cosa vuol dire omofobia? Mi risponda, cosa vuol dire essere omofobi? Vuol dire giudicare che il matrimonio sessuale non si deve fare? Vuol dire giudicare che il matrimonio tra un uomo e una donna è il fondamento vero della società e dello Stato e che va favorito, anche se si deve lasciare a tutti la libertà di fare quello che vogliono? Io credo che omofobia sia un'altra cosa. Ma secondo lei insultare una parola, insultare... questo è punito in Italia, perché se uno offende, picchia, discrimina, questo è punito già in Italia. Non c'è bisogno di una legge solo nuova. Sono solo nel caso di omofobia. Senta, ma in Europa, Casini, lei che è europarlamentare, esiste una lobby omosessuale? Secondo me sì. Sì? E da chi è incarnata? Non lo so, non le conosco di nome, ma è sicuro che c'è una mobilitazione molto forte quando si parla o si discute di queste questioni. Io adesso, come voi credo sappiate, mi occupo di un altro tipo di discriminazione da combattere, da vincere, molto più grande, vasta, grave, che la discriminazione verso i bambini non nati. Io sono presidente del Movimento per la Vita Italiana, se non sono contro la discriminazione. Però però questa lobby come allora, agisce? Allora questa anche una lobby cattolica, allora. Come esiste questa lobby? Come funziona questa lobby gay in Europa? Scusi? Non lo so, arrivano messaggi, iscritti, manifestazioni di ogni genere, gay pride, Però certamente abbiamo una presenza significativa, ma mica io lo condanno questo, è benissimo. Però bisogna combatterla, lei dice, questo tipo di pretesa. No, bisogna ragionare, usare la ragione. E io chiedo che si risponda a questo argomento di ragione. Ma lei è anche contro l'aborto, Casini, è anche contro l'aborto. Certo, lei. Per ragione di ragione, di umanità, per questione di ragione. Cioè, fosse per lei, abolirebbe anche la legge sull'aborto? Io, guardi, sto chiedendo da anni una sola cosa, che si riconosca che tutti gli esseri umani sono uguali. Sì, d'accordo, ma fosse per lei la legge... La legge... Vabbè, ma ho capito il principio, ma la legge sull'aborto la cancellerebbe? La legge sull'aborto è una legge che non punisce la donna, e io non sono favorevole alla punizione della donna, però non sono favorevole neppure alla legge 194, che invece di fatto riconosce un diritto che viene esercitato di sopprimere un bambino da parte dello Stato con i soldi di tutti. Scusi un attimo, d'accordo, ma lei, fosse per lei, la cancellerebbe la 194? Cioè una donna? Sì, ha detto di sì. La cancellerebbe o no? La cambierei radicalmente, stabilendo il principio che lo Stato deve impegnarsi per difendere la vita insieme alle madri, aiutando le madri. E se uno vuole abortire lo stesso? Vabbè, noi faremo prima di tutto ciò che è necessario per non farla abortire. E d'accordo, cioè, se uno decide di abortire lo stesso, avrà diritto di farlo, sì o no, secondo lei? Diritto no, può essere tollerato. Io non dico che c'è diritto di usare la droga. Ma scusi, nessuno dice che il consumo personale di droga è un diritto, è tollerato, non è punito. Ho capito, ma non è la stessa cosa. Nessuno consumare dice droga, evitare la prostituzione è un diritto, però è tollerato. Cioè, secondo lei si può... tra dire non punire e dire è lecito, è un diritto. Cioè, allora, vada fino in fondo, vieti anche l'uso dei preservativi. Vieti anche l'uso dei preservativi, vada fino in fondo. Questo è l'argomento, quando non sapete che altro dire, allora tutto scivola sulla questione dei preservativi e dei contraccettivi. Qui vada fino in fondo. Guardi, io non ho mai chiesto una legge che proibisca i contraccettivi, chiedo soltanto che sia riconosciuta la libertà a tutti di comportarsi come credono. Ma certo, quello è chiaro, ma nessuno vuole obbligare qualcuno a usare i preservativi, eccetera. Penso personalmente che sia che il valore della sessualità umana abbia un valore così grande, così importante, sì, così in certo senso persino misterioso, che meriti qualche regola anche nella sua gestione. Per cui ci sono metodi che non sono artificiali, ci sono dei... Vabbè, ma ognuno là si regola come vuole. L'importante è dare la possibilità alla gente di comprare i preservativi, però. No, non è esatto. Che fuori dalle farmacie immagino che ci deve essere un bel distributore, no? Fuori dalle scuole, eccetera, ci deve essere un bel distributore. Ma io voglio dire, la questione è un conto è le farmacie, un conto sono le scuole, perché la presenza del distributore delle preservative nelle scuole, cosa vuol dire? Vuol dire che il gesto sessuale è un gesto banale. Vabbè, ma quello sai, i ragazzi di 18 anni che vuole che pensino, a fare sesso, a divertirsi. Nella che... scuola ci stanno anche i ragazzi di 13, 14, 15. Ma no, 15, 16, senta un attimo una cosa. Andremo distribuiti gratuitamente dal Ministero della Pubblica Comunque, Istruzione no, della Salute. Siete stati costretti a scivolare sulla questione. No, ma è lui che l'ha... Ma scusi, allora le chiedo una cosa. Però scusi un attimo. Lei l'ha mai usato il preservativo? L'ha mai usato lei il preservativo? No, mai. Mai. Quanti figli ha, Casini? Contento e lieto. Quanti figli ha? Ma giusto per trasparenza, io lo uso in continuazione, ma solo per trasparenza, diciamo. Quanti figli ha, signor Casini? Quattro, tutti nati quando mia moglie qui presente mi sente. Beh, abbiamo deciso di averli voluti e sappiamo quando sono cominciati a esistere. E vabbè, ma per carità, ma voglio dire, immagino che per lei sia possibile fare sesso senza fare figli. Immagino che lei. Ma certo, fare sesso senza fare figli. Io, però, quello che dico su questa questione dei contraccettivi non c'entra nulla. No, ma infatti, non c'entra niente. Scusi, un'ultima, onorevole Casini, l'ultima cosa. Lei è una persona. No, ma è una persona che difende le proprie idee. Io, per carità, combatto con Casini, ha ragione a sostenere le sue cose. Io non sono ancora. Dico, abbiamo fatto un meraviglioso tuffo nel Medioevo. Medioevo, che c'è? Onorevole Casini, no. Allora, l'ultima cosa, onorevole Casini. Il Medioevo ellenico, magari, che era quello più avanzato, se non volete quel Medioevo, quello più di dignità umana. Senta, fosse per lei l'aborto sarebbe una cosa molto limitata, diciamo la verità, molto molto limitata. Certo. Molto limitata. Cioè, nel senso che... evitarlo nel maggior numero dei casi. Non vedo differenza tra la soppressione di un bambino appena nato, pare che anche oggi a Bologna sia successo un caso tragico, la soppressione del bambino nel seno della mamma. Ma come si fa a limitare la 194, la scelta della donna di abortire? Come si fa a limitarla? La differenza sta nel fatto che la donna... Al di là dell'educazione, al di là di questo, ci possono essere dei paletti di legge che limitano una donna ad abortire? Cioè le settimane dovrebbero essere anticipate, che ne so? Sì. fa piacere che mi faccia questa domanda, perché noi del Movimento per la Vita abbiamo l'esperienza di ormai quasi 40 anni di scienze e uso della vita, e sono 130.000 bambini che sono nati perché madri che volevano abortire o per lo meno avevano la tentazione. L'esperienza è che se tu il valore lo proponi, Ma lei diminuirebbe le settimane, diminuirebbe le prime settimane, per esempio, che ne so, si può abortire entro tot, adesso non mi ricordo bene, le diminuirebbe questo? Entro 12 settimane si può abortire in Italia, 90 giorni, certo. Lo diminuirebbe a quanto, per esempio? Io certamente sì. Voglio dire, io sarei per un coinvolgimento della cosa. Lo Stato si impegna per difendere la vita, non con l'uso della minaccia penale, ma con altri mezzi. Questo è il principio. E con quali mezzi? Con quali mezzi? Primo, affermare il valore della vita. Vabbè, secondo, al di là dell'affermazione, dal punto di vista delle settimane, per esempio. Ma lei pensa ai consultori, lasci stare le settimane. Eh no, vabbè, bambino, altrimenti. Il bambino di 4 settimane è un bambino come quello di 12, Ho capito, allora lei vuole diminuire il numero. No, non voglio diminuire, voglio combattere l'aborto con, dal punto di vista culturale, dal punto di vista culturale, e in collaborazione operativa, strategica, fattiva, di generosa attenzione con le famiglie e con le madri. Questo si può fare. Va bene. Si può fare. L'abbraccio, grazie. A presto, buone vacanze, buone vacanze. Ma come lo abbraccio? Perché non la posso abbracciare, l'abbraccio, combatte come un leone, l'abbraccio. Che devo fare? Io devo sparare. Alessandro da Torino. Non ci sarebbe più l'aborto. Per lui non ci sarebbe più l'aborto. Nessuno infatti deve usare i preservativi. Infatti è contro l'aborto. Alessandro da Torino. Beh, certo. Medioevo. Ma non lo so, io certo. Un adorabile medioevo. Alessandro da Torino, buonasera. Io ti ringrazio per aver lasciato questo spaccato di antichità, benissimo. Dica. Adesso arriva il tema. No, io sono ascoltavo adesso mentre tornavo a casa, penso che un'oretta fa lei abbia fatto ascoltare un certo Don Mario questa mattina ad una trasmissione. Signor Don Mario, non mi ricordo come perché non me l'hanno scritto, comunque. No, in ogni caso, io lo so che non me lo ricordo io, non è che non me l'hanno scritto, non me l'hanno scritto e nello stesso tempo non me lo ricordo. Insomma, il combinato disposto di queste cose fa sì che io non sappia chi è questo Don Mario, che è un prete invitato questa mattina in una trasmissione su Rai 3 che si chiama Cominciamo Bene, il quale ha detto delle cose assurde, stile Casini, insomma. Assurdi su questa. Allora, Pieracci mi dicono, signor Pieracci, monsignor Pieracci. Vogliamo risentire qualche perla del signor Pieracci? No, perché hai trasformato queste cose in tele radio medioevo? In radio medioevo hai trasformato questa trasmissione. Radio medioevo. Radio medioevo, sì, o radio teocrazia, radio Ayatollah Casini. Vabbè, insomma, Alessandro, adesso sentiamo qualcosa. Alessandro, dica. No, la questione è che io vorrei capire. Che vorrei portare, che vorrebbe capire? Capire, sì. Un'esperienza personale all'interno delle istituzioni ecclesiastiche, poi vabbè, la mia vita ha preso un'altra strada. Non perché sia contro assolutamente l'omosessualità o abbia nulla a che dire sulla omosessualità, assolutamente no, io sono un eterosessuale, lo dico solo per sgombrare il campo. Sì. Però io ho questa abitudine costante della Chiesa di portare, dal punto di vista proprio dei fondamenti, che siano essi etici o teologici, la questione dell'omosessualità su una questione di naturalità è veramente disastrosa per la Chiesa stessa. Perché a questo punto inviterei la Chiesa a discutere lo stesso argomento sul fronte del celibato e della castità. Cioè lei dice anche la castità e il celibato sono contro natura praticamente. Filosoficamente? Se la natura è quello che si vede, se è la cosa più diffusa, dice lei? Se la natura ed è quella... diciamo l'argomentazione che veniva portata, cioè se la cosa più naturale è quella di unirsi in matrimonio, di fare l'amore eccetera eccetera, anche castità e celibato sono cose contro natura. Assolutamente, la Chiesa nei millenni ha ammantato di sacralità e di fondamenti teologici ho capito. Questa è una follia, per esempio. No, perché è una follia? È un ragionamento corretto questo. Perché è una follia? Lui dice ma è una provocazione, è una sciocchezza, perché se uno fa un voto di castità o di verginità, chiamatela come vi pare, sono fatti suoi. No, ma certo, ma nessuno lo mette in dubbio, figuriamoci, la libertà è tollerare anche queste cose. Lui dice che siccome la che invece c'è qualcuno che vuole imporre ma nessuno vuole imporre nulla, il punto non è l'imposizione sul divorzio, vuole cambiare. Mamma mia, come sei vecchio. Allora il punto è un altro. Alessandro dice un'altra cosa. Alessandro dice: siccome la Chiesa e il Vaticano fanno dei discorsi, vuole essere vergine, rimane vergine. Oddio, mi fai parlare o no? Allora, siccome Alessandro dice che La Chiesa fa dei discorsi che riguardano la natura, quello che è naturale e quello che è contro natura. Allora, volendo, per paradosso, anche la castità e il celibato non sono delle cose naturali, cioè, ma non sono delle cose, vista la diffusione del matrimonio, vista la diffusione del sesso, eccetera, sono delle cose che potrebbero sembrare contro natura. Isabella da Milano, buonasera. Isabella, dica. Allora, prima di tutto vorrei dire che per i 15.000 euro di multa a Cassano, io avrei dato 30.000 euro di multa a chi ha deciso quel giorno di mandare proprio lui in conferenza stampa. Vabbè, questo è un altro discorso di cui però ce ne frega poco. 60.000 euro di multa al giornalista che gli ha fatto proprio a lui quella domanda e 120.000 euro è il numero uno è uno dei numeri uno dei giornalisti sportivi e non dica stupidaggini perché è stata una domanda che ha fatto scalpore, dunque resta il numero uno. Sì, e 120.000 euro a Cecchi Paone che proprio in quei giorni è andato a rompere le uova nel esattamente, doveva fare promozione al suo libro e resta comunque per questo il numero uno. Lei non ha capito nulla naturalmente, comunque. Beh, lei è odiosamente simpatico. Poi, chiamavo per quello che riguarda i matrimoni tra omosessuali. Io credo che il civile sia colui che non svolge la propria funzione sociale in maniera onesta e sociale. Quindi trovo molto più incivile un politico come Casini che non un omosessuale. Vabbè, poi? Poi. Poi traffico, va, su, andiamo col traffico. Questa è la prima lezione di cinese nella mia azienda. Ho investito in corsi di formazione, quello che ho risparmiato grazie a Nuvola IT Hyperway. Attivando una rete aziendale Telecom Italia, ho ricevuto le gocce di Nuvola, così ho potuto scegliere i servizi cloud a condizioni vantaggiose. Ora che sai come risparmiare risorse, raccontaci come ne investiresti per la tua azienda e partecipa al concorso Io e la Nuvola Italiana. Info e regolamento su www.nuvolaitaliana.it. La Nuvola Italiana di Telecom Italia, l'unico cloud con la rete dentro. Strade in diretta. Traffico ancora abbastanza intenso in alcuni punti della rete autostradale, in particolare verso le località di Villeggiatura. I disagi maggiori al momento sul tratto bolognese della 14 Adriatica verso Ancona, si resta in coda per un veicolo in avaria tra San Lazzaro e Castel San Pietro. In Liguria qui il traffico è ancora molto intenso, code sulla 10 di Fiori verso Ventimiglia tra Savona e Spotorno, verso Genova le code sulla 7 tra Busalla e Bivia 12. Proprio sulla 12 code in uscita da Genova fino a Nervi. Traffico sostenuto anche sulla A4 verso est con rallentamenti all'altezza di Brescia e in uscita da Venezia. Da Firenze verso il mare code a tratti sulla 11 tra Prato Est e Chiesina Uzzanese. Traffico molto intenso anche sulla Roma Civitavecchia, code a tratti tra la barriera di Roma Ovest e Cerveteri in uscita dalla capitale, code a tratti anche sulla diramazione Roma Sud verso Napoli. Il traffico intenso è rallentato anche in uscita da Napoli sulla 3 fino a San Giorgio a Cremano. Raccomandiamo infine prudenza per i temporali in corso in questi minuti tra Piemonte e Val d'Aosta, in particolare a chi viaggia lungo la A5. È tutto, Strade in diretta torna tra un'ora. La Zanzara. Eccoci qui, la Zanzara, 20:50, conclusione spettacolare con un collegamento da Washington, il professor Edward Luttuak. Buonasera. Oh, buonasera. Come sta, professor Luttuak? Per il momento bene. Sento una cosa, ma partiamo da per il momento? Per il momento non lo so, che ne so, magari... sai, è pragmatico il professor Luttuak. È preoccupato per la finanza internazionale, professor No, Luttuak. Ma è preoccupato per l'Italia, lo spread resta sempre molto alto. Come mai, professor Luttuak? Perché la capacità di pagamento di tutte queste obbligazioni dipende da avere avanzi di bilancio. Sì. E per avere avanzi di bilancio ci vuole la crescita, ci vuole il lavoro. Bisogna disingessare questa economia. Tagliare spesa pubblica sì, pure, mi no? Mi dispiace molto che invece di inseguire prestiti europei, che per aumentare il debito, non si attuano le misure che il professore Monti ha insegnato e ha predicato per tutti questi anni. Cioè liberalizzare questa economia ingessata. Sì. per esempio, licenze di commercio, sì, come in tutto il mondo avanzato, sì, che se tu hai un posto di commercio puoi vendere quello che vuoi, negli orari che vuoi, puoi aprire o chiudere quando vuoi. Sì, e anche spesa pubblica. Aumenterebbe subito l'impiego nei posti di commercio, permetterebbe a molti giovani di aprire negozi. Certo. Un locale qualsiasi, basta che paga VAT, è un negozio. Questi sono il tipo di liberalizzazioni, sì, che ci vogliono. E anche la spesa pubblica, no, professor Lutto? Che qui non, no, si è, ecco, fatto poco sulla, sulla parte della spesa pubblica, sì, io vedo che stanno riducendo le province e così via. Sì. Ma in questo, ridurre la spesa pubblica sarebbe un'ottima cosa psicologicamente, perché naturalmente le mega pensioni fantastiche dei grandi pensionati, i salari incredibili dei funzionari italiani che ricevono 2-3 volte più di tutti gli altri. Tagliare tutto qua. Tutto questo si può tagliare, ma in realtà in questo momento rilanciare l'economia è la priorità, fare, sì, i crediti di impresa, cioè è la crescita che ci, cioè, vuole. Con, senta, la crescita, ma con la Sicilia lei cosa farebbe? Ci sono, si lavora, si, certo, riduce la disoccupazione atroce. Sì, ma con la Sicilia lei cosa farebbe? Che praticamente è fallita ormai. È una situazione gravissima, professor Lutto. Beh, senti, se tu vuoi parlare di disincessare un'economia, per esempio con questione di licenze turistiche. Sì. Se tu dare licenze turistiche a chiunque vuole fare un albergo in qualsiasi punto. D'accordo. Seconda, ma... cosa, sì, di liberalizzare sarebbe di invitare le banche del mondo che vedono oltre la crisi. Sì. Il fatto che l'Italia è una grande economia, un grande paese, sì, grande futuro, di venire qui e aprire agenzie in tutta Italia, sì, con la solita condizionale che i primi anni devono solo prestare e non prendere depositi, sì, se, prima che si provano. Scusi un attimo, ma sai, disingessare l'economia, poi c'è la crescita. Senta, per assoluto, con la crescita c'è speranza, certo, ma in questo momento c'è solo strangolamento fiscale. Beh, questo purtroppo è così. Ma se l'aspettava da Monti lei questa cosa qua, lo strangolamento fiscale? Io mi aspettavo da Monti una lotta feroce per liberalizzare. E invece non c'è. Per applicare il programma del professore Monti. Invece, siccome questo irrita molte persone e causa, sì, eccetera, ho visto il professor Monti che preferisce di chiedere aiuti da fuori dall'Italia, gli euro bonds che non sono fattibili o questa cosa, l'ISF, il CPF, il pupino e l'X and Y, sono tutte iniziali per rappresentare soldi che vengono da fuori, certo, ma non sono regali. Sì. Aumentano il debito. Scusi, professor Lutto, è Berlusconi adesso. È rientrato Berlusconi. È rientrato Berlusconi, dice che si vuole ricandidare. Ecco, Berlusconi rientra e dice: farò quello che non ho fatto, sì, in passato, mea culpa, e faccio il disingessamento dell'economia italiana. Io ho scoperto, ad esempio, che la Regione Lazio, sì, ha passato una piccola regola che per avere una stanza d'albergo, per doppia stanza, sì, albergo, deve avere un minimo di, sì, non so, 18 metri quadri, cioè, ci sono migliaia di regolamenti, sì, che bloccano, certo, il commercio, bloccano, ecco, l'attività, ma scusi, economica. Il ritorno di Berlusconi non è una cosa che può sembrare terrificante, il ritorno di Berlusconi? No, America, ecco, un Berlusconi che dice: mea culpa, non ho fatto niente, adesso faccio l'imprenditore in politica e faccio la deregolamentazione. Può essere positivo. Abolisco il notaio, fa queste cose, questo Berlusconi può salvare l'Italia. Ancora, come ancora. Può farlo chiunque oggi che capisce che bisogna disingessare l'economia. Ho capito. Rilanciare l'economia italiana. Senta, ma con i funzionari pubblici... Non andare in giro a cercare, sì, ulteriori prestiti. Con tutti quei funzionari pubblici della Sicilia, che ci facciamo con tutti gli impiegati? Ecco, allora... Se uno va in Sicilia, sì, e applica norme nazionali come la libertà di commercio, libertà, sì, di fare hotel, fissanza, di fare, sì, bread and breakfast, sì, di fare tutte queste cose, sì, allora c'è l'attività economica turistica, e allora non c'è più l'attaccamento feroce a questi non pseudo impieghi statali, certo, in organizzazioni che non fanno proprio niente. Nulla. Tra nulla. L'altro, sì, nella Sicilia, sì, c'è l'immondizia dovunque, sì, eppure, beh, gente, sì, sono pagate per prendere l'immondizia, ma questo fa parte dell'idea che siccome il posto di lavoro non te lo guadagni ma è un privilegio, non chiedermi anche di fare l'immondizia, io sono già diventato impiegato. Impiegato, certo. Però senza crescita economica non c'è niente, non si fa niente. Per crescere bisogna disincessare, bisogna deregolamentare. Ho capito. Senta, professor Ruto, è fantastica che ti fanno chiudere un albergo. Sì. Perché la Regione Lazio qualche mese fissato fa trova una nuova regola. Cioè io voglio affittare una stanza di 3 metri quadri. Non la posso affittare perché ci vuole. Non me la fai, io non posso affittarle. No, devo essere perlomeno 14,7. E che vogliamo fare? Cioè, ci sono, bisogna deregolamentare. Abbiamo capito, professore. Grazie, buona serata. Grazie. 800 24 00 24, non era lo stesso disco, non sarà inceppato il disco, era sempre, era fissato con gli alberghi, era sempre lui, professor Lutek. Era fissato con gli incentivi, il turismo, gli alberghi. Comunque, io ti saluto. 30 secondi, non rompere. Non è venuto. Gianmario, no, è venuto, ma hai detto che non volevi sentire la sua testimonianza. Niente, non ci abbiamo tempo. Gianmario da Milano, Antonella da Roma. Antonella da Roma, la voglio sentire. 20 secondi, Antonella da Roma. Antonella? Pronto? Sì, veloce, 20 secondi. Buonasera, velocissimamente. Berlusconi è un mafioso imbroglione. La Minetti è una mignotta. Formigoni, invece che essere celeste, è marrone come la cacca. Sì. Io vorrei sapere come si può dare credibilità a questa gente. Benissimo. La Minetti se ne deve andare. Bene. E basta. Conclusione geniale di Antonella da Roma. Ci sentiamo lunedì 18:30. Ciao. Per il momento, bene. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.